diciamo noi a Milano, perché in realtà si tratta di un trasferimento in blocco. Noi speriamo soltanto che questa atmosfera, il tempo è anche diciamo favorevole, concili una concentrazione, diciamo, e quindi che il nostro istituto non sia soltanto così una specialità esterna, ma in qualche modo contribuisca a questo coagulo di confronti. Il gruppo stesso dei relatori programmerà queste giornate, quindi oggi, diceva Zaninelli, si dedicherà più che altro agli aspetti metodologici, e poi o oggi più tardi o domattina verranno portati i risultati specifici delle varie ricerche. Nient'altro, se ci sono problemi organizzativi la segreteria è a sua disposizione. Ma si potrebbe finire per domande e travelle, fino a due come sì, si penso di sì. Perché essendo resa Penso che ci dice il primo pomeriggio, cioè introduzione per il pranzo, il sub, riprese e conclusione. Ah, ecco, ma c'è la ripresa. Il primo pomeriggio. Ma questo dipende da noi, questo dipende però, da... Cioè, noi l'avevamo programmato. Andare a prendere colazione un po' tardi. No, scusate se ho finito. Ma penso che converrà far così a un certo momento, se la presentazione avviene nella prima mattinata, c'è ampio spazio per la discussione. Saranno i presenti a dire se noi siamo a disposizione, ecco, non possiamo essere noi qui che limitano, vediamo come va il lavoro. Questo può essere deciso ancora domattina alle 11, certo, cioè, teniamoci sì. Molto elastici come al certo. Solito. Io penso che si possa decidere alle 11 di andare a pranzo alle 1:30, non so, e poi oppure di riprendere subito alle 2 andando, ma non so, direi che si può benissimo concludere domattina. Sì, grazie. Come loro sanno dalla presentazione che è stata fatta, dalla comunicazione che è stata fatta, l'argomento che ci occuperà in questi giorni, in queste ore di lavoro, è costituito dai risultati delle ricerche che l'Istituto di Storia Economica dell'Università Cattolica sta conducendo da un certo numero di anni su un tema che è molto legato all'impostazione data alle ricerche, agli studi di storia dell'agricoltura lombarda da Mario Romani, e cioè l'aspetto relativo alla distribuzione della proprietà fondiaria nello Stato di Milano della seconda metà del Settecento, e con particolare riferimento alla seconda metà del Settecento. Gli studi di Romani, come tutti sanno, si sono particolarmente dedicati a questo argomento, la storia dell'agricoltura dello Stato di Milano tra 7 ed 800, e hanno tracciato alcune linee, come dire, hanno anche lasciato aperto alcuni problemi volutamente, ai quali noi ci siamo dedicati e ci stiamo dedicando in questi anni. E vi diciamo subito, manifestando una gratitudine che fa parte, come dire, dei rapporti di amicizia che ci sono con Prodi, col professor Schiere e gli altri che dirigono l'Istituto Storico Italo-Germanico, gratitudine che discende dal fatto che noi siamo qui per presentare i risultati delle nostre ricerche, ma siamo qui soprattutto per discutere, come dire, i risultati stessi, ma soprattutto i criteri che ci hanno guidato per arrivare a questi risultati. Abbiamo un grande interesse a conoscere il parere, a discutere con le persone che in altri settori o per altri periodi si sono dedicati a queste stesse nostre questioni, insomma, perché man mano che sono passati gli anni, devo dire che a questa ricerca ci stiamo dedicando, il tutto è partito 12 anni fa. E poi si è organizzato in un certo modo, ha preso un certo slancio con un certo aiuto finanziario che è quello del CNR, ed è culminato recentemente con i risultati che sono quelli che vi illustreremo. Il lavoro è stato quindi molto lungo, non è detto, come loro sanno, che un lavoro lungo sia un buon lavoro, questo lo vedremo, insomma, può anche essere un cattivo lavoro, però è un fatto che in tutti questi anni noi abbiamo accumulato molte questioni. Alcune crediamo di averle risolte, altri certamente non le abbiamo risolte, oppure le abbiamo impostate in un modo che merita, noi crediamo, una discussione, un approfondimento insieme. Quindi questo non vuole avere, questo incontro dal nostro punto di vista vuole avere sì un significato giusto di verifica del lavoro compiuto, ma anche un dibattito, come dire, un'occasione di discussione, di dibattito su questioni che per il nostro mestiere ci interessano tutti, insomma ci occupano tutti, no? Più o meno. Insomma. Ecco, fatta questa premessa, e per andare subito al cuore del problema, noi avremmo pensato di organizzare questo nostro lavoro in questo modo. Siccome nei risultati che noi presenteremo hanno un peso centrale le questioni di metodo, no? L'insieme, cioè delle scelte che abbiamo dovuto fare per utilizzare, per sfruttare, come si dice, un materiale archivistico dell'imponenza e dell'importanza, quale quello appunto costituito dal materiale del Catasto Teresiano. Noi abbiamo pensato di dedicare una prima parte dell'incontro ad esporre questi criteri, per poi passare ad esporre i risultati, no, della ricerca stessa. Non vi nascondiamo, non vogliamo nascondere che annettiamo molta importanza a questa prima parte. E la seconda parte potrà ingolosire di più, voglio dire, potrà rappresentare un elemento di interesse per coloro che vogliono già, insomma, conoscere risultati e sbocchi della ricerca, però la ricerca stessa, coi suoi limiti, ecco, io insisto su questo punto, coi suoi limiti, coi suoi problemi, con le sue zone d'ombra, veramente richiede un discorso preliminare, aperto, su tutto quello che ha rappresentato, come dire, l'impostazione del lavoro stesso. Allora, io dirò, così introdurrò, dicendo quelli che sono stati i problemi veri della ricerca. Il dottor Bianchi esaurirà questa prima parte con la presentazione degli aspetti tecnici poi del lavoro, no? Quindi l'impostazione, la sua realizzazione, che ha rappresentato anche una fatica notevole perché ci ha trascinato un po' fuori, come dire, dalle nostre competenze, insomma, dalle nostre capacità. Io chiedo scusa, sono di provincia, insomma, il calcolatore mi fa ancora impressione, insomma, non, altri non hanno di questi problemi, ma tutto il marchingegno che sta intorno a queste cose mi suscita sempre un pochettino di preoccupazione. Ecco. E questo vuol dire che appartengo a una generazione destinata oramai, sono sparito già, ma insomma, comunque sono qui ancora per restare per un po' e bisognerà tollerarmi. Quindi questa è la prima parte dell'incontro, voglio dire quella che è finita questa, e finita la nostra presentazione e la discussione, e questo è il punto, che la nostra presentazione dovrebbe suscitare molti, un dibattito che noi speriamo proficuo, possiamo passare all'esposizione dei risultati delle due ricerche. Due ricerche nel senso che per quel che riguarda la distribuzione della proprietà fondiaria nello Stato di Milano, del terzo decennio del Settecento, che è quello appunto che abbiamo fatto. Ma noi ci siamo divisi la ricerca come ambito territoriale, facendo io, sviluppando io alcune considerazioni, alcune conclusioni per quel che riguarda la parte di pianura e di altopiano, di collina, e il dottor Bianchi la parte della montagna. No? Terzo decennio, tra i 20, tra i 6. E Bianchi invece la parte relativa alla zona di montagna. E Cova poi dovrebbe concludere con una cosa che è un po' fuori dal tema, in senso, ma dopo sarà la benevolenza dei presenti a dire se la cosa andava bene o non andava bene, ma dentro i nostri interessi di studio ci sta anche il lavoro che Cova ha fatto sullo stesso tema, ma spostati in avanti, cioè in età francese, su una fonte altrettanto interessante ed importante, che è rappresentata dalla vendita dei beni nazionali e da tutto il materiale connesso alla vendita dei beni nazionali. Le cose si legano perché noi abbiamo affrontato la questione per un periodo, Cova aggiunge una serie di valutazioni, no, per un periodo successivo altrettanto importante. Dirò che tutto questo sta dentro nel quadro delle nostre ricerche, che bisogna dirlo, insomma, questo anche per dare il senso del limite, insomma, di quello che abbiamo concluso fino a questo punto, ricerche che da una parte dovranno portare ad una pubblicazione le nostre relazioni compariranno in un volume dei contributi dell'Istituto che verrà mandato in stampa in gennaio, e quindi i tempi li conosciamo tutti, insomma a metà dell'anno il volume ci sarà, no? Ma e la cosa più importante che volevo sottolineare, noi collochiamo queste ricerche in un ambito più ampio, che è quello della, vuol dire, dell'indagine intorno alla ricchezza mobiliare ed immobiliare dello Stato di Milano nel Settecento. L'obiettivo un po' ambizioso è questo. Dobbiamo molto da una parte a Romani per l'indirizzo che ci ha dato di lavoro, e io qui davanti al professor De Maddalena devo dire che dobbiamo molto al professor De Maddalena, perché per esempio per quello che riguarda indagini sulla ricchezza mobiliare, il convegno di Milano al Castello ci ha messo sulla pista delle regalie e di tutti gli accertamenti relativi alle disponibilità, insomma, non immobiliari, e tutto questo entra oramai in un discorso organico, insomma, che vorremmo col tempo concludere. Ecco, questo è un po' il nostro, come dire, così avremmo organizzato le cose, no? Cova quindi chiuderebbe con una relazione sui risultati della sua ricerca, preceduta da una piccola illustrazione del tipo di fonte che ha utilizzato. Tutto questo lo faremo stare dentro, se è possibile, naturalmente, nel tempo che è stato messo a disposizione. Se loro sono d'accordo, cioè che si proceda in questo modo, io avvio, no, la presentazione, ripeto, della ricerca, della sua impostazione generale, dei problemi di fondo, insomma, che abbiamo dovuto affrontare, del modo come li abbiamo affrontati in linea di metodo. Ho già detto che la ricerca si inserisce in questo quadro più ampio di interessi per la storia dell'agricoltura. Devo adesso aggiungere che la ricerca si è soprattutto fondata sulla disponibilità di quel materiale eccezionale, insomma, il materiale archivistico eccezionale, che è rappresentato appunto dal complesso delle operazioni che noi chiamiamo di catasto, no? Di catasto teresiano, quello che si conclude nel 60 con il nuovo calcolo dell'imponibile sul quale graveranno le imposte, no? nella fase successiva. La disponibilità di questo materiale, la disponibilità vuol dire la sua accessibilità, ma vuol dire anche le sue caratteristiche intrinseche, che io richiamo così perché parlo a persone che conoscono meglio di me queste cose: la completezza e la completezza del materiale, no? Perché ovviamente questa è una documentazione che fornisce i dati di un universo preciso, in pratica non ci sono vuoti, non ci sono perdite, non ci sono lacune, è veramente un insieme di rilevazioni compiute in certe date, in certi momenti, di cui non è andato smarrito praticamente niente, insomma, no? Di cui disponiamo veramente nella completezza. E poi l'altra grande caratteristica, per chi conosce le difficoltà e i problemi dell'utilizzare i dati quantitativi, l'altra grande caratteristica, questo è materiale che fotografa una situazione in esteso, su tutto l'universo, insomma, no? A un dato momento, e permette una conoscenza sintetica ed analitica quali pochi altri materiali di questo tipo forniscono. Quindi è legato ai nostri interessi, ma anche a questa disponibilità, all'esistenza di questo materiale, che si è sviluppato, no? Il progetto. Il progetto che naturalmente mette in stretta correlazione, no, il materiale specifico e gli obiettivi della ricerca. Cioè, voglio dire, fatto tutta una serie di lavori di assaggio sul materiale stesso, noi, tenendo conto del materiale in quanto tale, delle sue potenzialità, diciamo, abbiamo formulato una serie di obiettivi di cui adesso dirò subito. Forse non è male però, ma su questo non vogliamo tediare nessuno, semmai nella discussione il problema a questo punto è soltanto quello di eliminare forse qualche dubbio o qualche oscurità che poi potrebbe ripercuotersi negativamente sulla discussione. Ecco, vale la pena di spendere qualche parola nel descrivere il materiale sul quale abbiamo lavorato noi, perché la ricerca non è stata condotta su tutta la documentazione catastale, che io non richiamo neanche nella sua tipologia fondamentale, perché sennò ci vado dopo pomeriggio. E noi abbiamo lavorato su una fonte specifica che sono costituita dai registri catastali, cioè quel documento catastale interno vuol dire degli uffici del catasto, sul quale nel decennio 20 si sono fissati i caratteri della rilevazione, quindi un certo tipo di dato, un certo quantità di dati relativi alla verifica e alla stima che si stava facendo come premessa appunto al calcolo dell'imponibile, no, da offrire al pubblico potere per l'applicazione delle imposte. Quindi il registro catastale è il nostro documento, che ha tutte le caratteristiche che ho detto prima, la completezza di appartenere ad una fascia, come dire, ad un periodo, no, che permette di fotografare la situazione, l'essere soprattutto, questo è un punto da sottolineare, essere un documento su cui si fissano dei dati, e per dirla molto rapidamente, i dati che indicano il titolare, no? O che indicano meglio colui a cui è attribuita la partita catastale, preceduto da un numerino che indica, vuol dire, le qualità delle culture delle singole particelle geometriche che formano la partita stessa. Sulla sinistra è indicato, come tutti sanno, il numero di mappa corrispondente dalla particella geometrica ritrovabile sulla mappa catastale, a cui fa seguito la misurazione in pertiche e tavole delle superfici delle singole particelle geometriche catastali, a cui fa seguito il numero dei gelsi in essere per ciascuna delle particelle catastali geometriche, a cui fa seguito la stima unitaria per ciascun tipo di cultura, no, formante la partita, a cui fa seguito il calcolo risultante dalla moltiplica della superficie della particella per il valore unitario, che poi sommato dà il valore complessivo della partita, il valore catastale della partita. Per cui è fin troppo evidente che questa è una fonte che offre elementi importantissimi, perché ci dà il nome, diciamo così, dell'intestatario, ci dà la cultura, l'ampiezza della cultura, e elemento che noi tenderemo, almeno io tendo a non sopravvalutare, anzi semmai a sottovalutare, per il suo significato di mero indice, no, utilizzabile come parametro per la ripartizione dell'imposta, il valore catastale, che non è il valore di mercato, come tutti sanno, che è cosa diversa, perché doveva servire ad uno scopo ben preciso, che era quello di parametrare, di indicare la ripartizione, no? È una caratura sostanzialmente, è un indice che permette di ripartire poi l'imposta della comunità sulla base dello scrutato in cui si esprime appunto il valore catastale. Naturalmente nel dire queste cose c'è la preoccupazione, io questa la esplicito perché in queste cose qui non c'è niente di più stupido che non giocare a carte scoperte, insomma. C'è la consapevolezza del limite, insomma, dei limiti che verranno fuori, li dirò mentre esplicito alcuni problemi della ricerca, li diremo soprattutto quando renderemo conto dei risultati. Insomma. Siamo noi i primi a voler sottolineare che, contrariamente al parere di altri, insomma, non sto polemizzando, non è questo il problema, insomma, contrariamente al parere di altri, noi riteniamo che da questi dati si possano ricavare poche cose importanti, ma poche cose, no? Con gradi di attendibilità e di significato economico molto diverso, e direi tutto insomma abbastanza limitato. Semmai l'importanza di questa fonte della documentazione dei dati è che non abbiamo altre cose, o ne abbiamo molto meno. Questo rivaluta fortemente, no, questa fotografia del regime agrario e fondiario dello Stato di Milano in un certo momento. Ma man mano che è passato il tempo ci siamo sempre più resi consapevoli dei limiti, e quindi non abbiamo voluto, abbiamo combattuto tutti i tentativi di mitizzare i risultati del catasto, le possibilità che il catasto dà, perché non intendiamoci, chi mi tocca questa cosa qui mi colpisce a morte lo sbrano, insomma, perché, cioè, ecco, tutti qui siamo qui pronti con col coltello in mano, però proprio per questo siamo i primi a dire, insomma, che di tutto questo bisogna vedere veramente i grandi limiti, no? I grandi limiti dei dati in sé, e quindi dell'utilizzazione che ne scaturisce. Ecco, premesso questo, su quale possiamo poi tornare, insomma, no? Noi ci siamo proposti di arrivare ad alcuni obiettivi precisi, insomma, direi riassumibili così: ricostruzione, dei caratteri fondamentali del regime agrario e fondiario della Lombardia austriaca nel terzo decennio del Settecento. Questo è già appunto l'oggetto, vuole essere limitato in questo modo, assumendo naturalmente come caratteri fondamentali quelli che sono tali, sono i caratteri fondamentali del regime agrario e fondiario. Quali sono? Sono la destinazione culturale del terreno, per tipi e per ampiezza naturalmente, l'ampiezza dell'unità, bisognerebbe dire aziendale, ma vedremo, non possiamo dirlo, e poi la ripartizione della superficie per grandi classi, per gruppi sociali, per categorie sociali. Dal catasto non, secondo noi non si può cavare altro, non si può e non si deve cavare altro. Questo è già un obiettivo, come dire, importantissimo per le ragioni dette prima, ma già questo dice qualche cosa. Difatti io mi sono scritto qui perché sennò me lo dimenticavo, ma criterio nostro di base: non chiedere ai dati catastali ciò che non possono dare per la natura dell'operazione, proprio in sé, non per la natura dell'operazione. Ecco, premesso questo, se mi date un pezzo di filo d'acqua, grazie. Premesso questo, io passerei ad esaminare i problemi, le grandi questioni che abbiamo dovuto affrontare. Sono queste sostanzialmente, sono queste. No, non sono in ordine, come dire, di importanza e neppure di difficoltà. Sono nell'ordine logico in cui abbiamo dovuto affrontarle per predisporre l'organizzazione della ricerca e poi attuarla. Dunque, stante che il nostro obiettivo era di ricostruire questo su tutta la superficie dello Stato sovrano, è diventato importantissimo, anzi il primo obiettivo è stato questo, la determinazione delle zone agrarie in cui si ripartisce il territorio. Sull'importanza di questa operazione non è inutile che sprechi tempo, perché non tutti sanno che è inutile studiare un ambiente che presenta caratteristiche di disomogeneità, di eterogeneità. Lo Stato di Milano presenta dal punto di vista del paesaggio agrario questa grande eterogeneità, no, dalla montagna si passa alla pianura irrigua, quindi si comprendono, come dire, territori, si comprendono appunto terreni che per la destinazione, per la giacitura, per l'altimetria, per tutta una serie di, per il clima, no, da un punto di vista agrario hanno un significato, degli risultati economici completamente diversi. Quindi questa operazione era importantissima e noi abbiamo proceduto in questo modo, cioè almeno per la parte pianura e collina, perché poi Bianchi ha tentato anche un altro esperimento. Andando giù piatti per semplicità, abbiamo utilizzato il criterio altimetrico. Naturalmente questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che abbiamo dovuto riferirci a una rilevazione la più attendibile relativa allo stesso territorio. La rilevazione più attendibile non poteva che essere il catasto del 1910 curato da Ghino Valenti, con tutte le sue articolazioni, come dire, con tutto quello che è costato dal punto di vista appunto dello studio dell'ambiente. E quindi abbiamo preso le altezze, le altimetrie, e comunità per comunità le abbiamo attribuite a un certo numero di zone agrarie di cui adesso dirò. E questo è stato, come dire, il modo che abbiamo ritenuto più semplice, più pulito, insomma, no? Bianchi dirà poi, quando presenterà domani mattina la sua ricerca, è andato, potendo operare su un territorio più limitato, ha cercato la conferma della specificità della zona agraria, non solo nell'altimetria, ma anche dai dati che gli venivano forniti dalla qualità del terreno, dalla qualità delle colture. Cosa che nel suo caso era possibile perché maneggiava, come dire, una superficie più modesta, insomma, cosa che per me invece diventava più complesso per la grande ambienza, no? Perché il numero, come dire, dei dati disponibili. Quindi cioè questo non è una diversità di criteri, è soltanto una verifica. Verifica, se non sbaglio, Bianchi l'ha portato a concludere che il criterio altimetrico, tutto sommato, è il criterio più che dà, no, la possibilità di delineare le singole zone agrarie. Ecco, le zone agrarie che abbiamo determinato, questo è il caso classico in cui uno non trova più niente. No, ce l'ho. Sono queste qui. Sono queste. Dunque, intanto abbiamo accettato la divisione in tre grandi regioni, la regione di montagna, la regione di collina e la regione di pianura, cosiddetta, in sinistra di Po. E le regioni di montagna danno luogo, secondo la nostra classificazione, noi abbiamo utilizzato, come dire, l'impianto del catasto del 10, nel senso che abbiamo fatto questa attribuzione delle comunità secondo la simmetria, ma abbiamo delimitato ulteriormente le zone, perché il catasto di riferimento di Ghino Valenti prende in considerazione la Lombardia, non prende in considerazione lo Stato di Milano, quindi è stato necessario ritagliare dentro ciò che apparteneva allo Stato e ciò che non apparteneva allo Stato. Quindi, regioni di montagna alpina, alta e media montagna, media e bassa montagna prealpina. Dirà poi Bianchi come ha articolato ulteriormente questo in modo specifico per il suo lavoro. Io ho utilizzato l'ultima zona agraria della zona di montagna, media e bassa montagna, e poi ho utilizzato le tre zone agrarie di collina, alta collina prealpina, alta e media collina, bassa collina. E poi ho utilizzato le sei zone della pianura, no? Che ho mantenuto così disaggregati. I risultati di cui riferirò sono risultati ancora disaggregati per questo numero ampio di zone agrarie. È fin troppo evidente che disponendo di dati disaggregati è possibile qualsiasi tipo di aggregazione, per esempio alta pianura asciutta fra Ticino e vicino al Ticino, poi bassa pianura risicola fra Ticino e Lambro, bassa pianura irrigua tra Lambro e Ladda, bassa pianura irrigua fra Ladda e Loglio, ecco, questa è una zona per esempio che è unificabile, no? Che è compatibile. Bassa pianura in gran parte asciutta Pavese Lodigiana, bassa pianura asciutta Cremonese. Quindi io ho lavorato su queste zone agrarie determinate nel modo che è stato detto. C'è un limite, lo diciamo subito, un limite che era già denunciato nella stessa relazione sul catasto di Ghino Valenti, ed è che in questo modo quando all'interno di una comunità è compreso un terreno di collina, un terreno di montagna, oppure un terreno di collina, un terreno di pianura, la comunità è classificata come se fosse omogenea. Ma è fin troppo evidente che al di sotto di questo non si può andare, nel senso che sì, è possibile andare, ma non, come dire, a questo livello di aggregazione. È possibile comunità per comunità, no, disponendo delle mappe, disponendo poi del materiale specifico, ma io evidentemente al di sotto di questo non potevo andare e neanche Bianchi ha potuto andare. Quindi questo è il primo problema, tutto sommato abbastanza semplice, insomma, no? Abbastanza semplice perché c'era questo strumento, postisi dei limiti precisi, e non si poteva che arrivare a questa conclusione. Il secondo problema, la determinazione dei tipi di cultura. Più correttamente bisognerebbe dire la determinazione del tipo di impiego che aveva il terreno al momento della rilevazione catastale, no? Questo per la precisione. Quindi la determinazione dei tipi di cultura in cui si ripartisce la superficie i relativi valori catastali. Ti chiedo scusa. La determinazione dei tipi di cultura. Così ne approfitto. Ho detto per precisione, più correttamente, del tipo di impiego del terreno al momento in cui avviene la rilevazione catastale, perché questo dovrebbe essere la definizione. Comunque, diciamo per semplicità, la determinazione dei tipi di cultura. Ecco, qui bisogna ricordare che la giunta del censimento, nel predisporre le norme per la misurazione, la valutazione e stima dei terreni, non si preoccupò, io ritengo che neanche potesse, insomma, predeterminare i tipi di cultura. Si affidò quindi all'esperienza dei geometri, misuratori e stimatori, perché usando la nomenclatura corrente dell'agronomia del tempo, classificassero i terreni. E naturalmente questo ha dato luogo, non poteva non dar luogo, al moltiplicarsi, no? al gran numero di specie in questo modo rilevato. Noi non abbiamo potuto far seguire questo criterio, che neanche la giunta poi, come dirò, segue, perché ci siamo trovati di fronte, Bianchi le ha misurate, le ha enumerate, a 365 tipi di cultura. Tanto per dare un'idea, perché un momento, perché desideriamo che il discorso sia il più dettagliato possibile per capire le difficoltà. Per esempio, uno si trova di fronte a una nomenclatura che argine, argine boscato di legno dolce, argine boscato forte, argine con gabbe, argine con piante da cima, argine con piante da cima dolci, argine con piante forti, argine con piante dolci, argine in costa precipitosa e sassosa, argine pascolivo e boscato, argine zerbido. E ho citato un caso, naturalmente ce ne sono un'infinità. Ceppo boscato, ceppo cespugliato, ceppo e precipizio, ceppo nudo. Costiera boscata forte, costiera con alberi da cima, 386, insomma, risparmio. 365. Sì, ho esagerato, subito portato all'esagerazione. Ma 365, 386, problema, non cambiava molto. Quindi il punto veramente importante, insomma, era quello di procedere a una classificazione più ristretta, insomma, no? Creando, come dire, delle categorie comprensive, ma senza, ecco il punto, senza snaturare la rilevazione, senza snaturare quella che veniva a essere la definizione nuova dei tipi di terreno, dei tipi di colture. Noi abbiamo dovuto ridurre le colture da 365 a prima a 43 e poi nei tabulati a 36, quindi abbiamo immesso poi nel calcolatore, sono 36 tipi di coltura. Devo dire che possono sembrare eccessive, è già un numero piuttosto elevato, rispetto per esempio alle 12-13 categorie di stessi terreni determinate da pugliese ed adottate anche da romani, no? Che sono, ecco, attenzione però, perché ci sono delle conferme che impressionano un po'. In un fondo di cui conosciamo l'origine, presso l'archivio civico di Milano, nelle carte relative a quella giunta ombra che funziona per controllare l'operato della giunta ufficiale, io ho trovato un tentativo di sintesi, no? Di cui ho qui la fotocopia, che ho portato, no? E che utilizzerò per fare dei confronti. Un tentativo di sintesi su tutti gli 11 milioni di pertiche formanti lo Stato di Milano, 11 milioni e 600, non ricordo mai. Bene, quelli che hanno realizzato questa cosa, questi prospetti statistici, hanno adottato 13 tipi di colture, che sono le stesse che ha adottato Pugliese. Il che vuol dire che intorno al 1700, siamo prima del 40, diciamo tra il 730 e il 740, queste persone incaricate, non lo so perché non risulta dalle sue, allora non è più una, a me sembrava una, sembrava che fosse invece una coincidenza, perché io non ho trovato nel lavoro di Pugliese la citazione di questa forma. Comunque, la cosa importante è che è possibile ridurre senza snaturare, no? Senza snaturare quello che è il risultato della rilevazione. Però noi abbiamo ritenuto di mantenere questa disaggregazione perché essa consente, come prima, tutte le aggregazioni di tipi di culture in qualche modo affini, insomma. Voglio dire, gli arativi si possono mettere tutti insieme, gli aratori si possono mettere tutti insieme, le culture a bosco, gli irrigui si possono mettere insieme, questo a secondo, insomma, anche delle zone, perché certi tipi di compattamento hanno un significato in una zona e hanno uno diverso in una zona che ha altre caratteristiche. Devo anche dire, qui però Pugliese non l'ha visto, perché sono sicuro, quando il lavoro era già finito, in una cartella con materiale successivo al 760, ho trovato una cartellina, una cosettina interessantissima. La giunta, preoccupata del numero eccessivo di culture, e anche forse della fantasia dei geometri, insomma, quando si trova di fronte a una cosa un po' strana, lì al momento improvvisavano, usavano un termine, come dire, che valeva solo in quella situazione lì e non in altre, si era preoccupata e ha fatto un prospetto, culture principali e culture secondarie a cui riportare, no? In cui da riportare alle categorie principali. E le ho qui anche queste, sono sostanzialmente quelle che abbiamo individuato noi, no? Con qualche diversità, anche difficile da spiegare per l'interpretazione, come dire, che cosa intendevano per un... Noi, di fronte a quella varietà di culture, abbiamo cercato di andare alla sostanza. Per esempio, tra il sostantivo e l'aggettivo, abbiamo scelto il sostantivo oppure l'aggettivo come categoria principale, a secondo di quello che ritenevamo più importante. Cioè, voglio dire, per esempio, un terreno che risultasse boscoso, ripa boscosa, per esempio, faccio il caso classico, ripa boscosa, è un bosco, cioè è più assimilabile al bosco, vabbè, non è in piano, è certo rende molto meno, sappiamo, perché però come superficie uno se deve ficcarla da qualche parte, non può creare la categoria delle ripe, insomma, che crea la mette nella categoria del bosco, sarà un bosco di valore diverso, difatti questo risulta, no, come valore catastale, però è un bosco, insomma. Così, per esempio, un terreno zerbido è sostanzialmente un orto irrigato. È terreno irrigatorio, insomma. Noi abbiamo lasciato distinta la categoria degli orti dagli altri tipi di impiego. Ecco, a questo proposito, le culture che abbiamo poi alla fine adottato sono... poveri noi, adesso quello comincerò a non trovare. Ce l'ha lei, Bianchi, sotto mano. Perfetto, grazie. Ecco, le culture che abbiamo adottato sono queste. Aratorio ad acquatorio, sono per 36, sì. Aratorio ad acquatorio a vicenda, aratorio a vicenda, aratorio avitato ad acquatorio, aratorio avitato ad acquatorio a vicenda, aratorio vitato a vicenda, e sono tutti gli aratori. Poi beni senza valore capitale, che è irrilevante, bosco, brolo, cioè orto recintato, brughiera, castagneto, costa arborata, non costa boschiva, perché costa arborata indica, ecco, perfetto, cioè le piante molto molto sparse, insomma, non è bosco, non può essere considerato bosco. Incolto produttivo, perché questo pareva una distinzione da fare. Orto ad acquatorio, poi cominciano i pascoli, pascolo boscato, pascolo con alberi, perché qui c'erano molte sottospecie. È chiaro che un pascolo boscato, un pascolo con alberi, questi alberi tra l'altro possono essere alberi da frutta, pascolo boscato invece è il pascolo al limite del bosco, è la fascia che è ad uso promiscuo, cioè c'è uso di pascolo e c'è uso di bosco, insomma, perché sennò non avrebbero figurato le due espressioni. Poi il prato, e qui viene tutta la lista dei prati, prato ad acquatorio a vicenda, prato boscato, prato con alberi, prato con castagni, prato marcitorio, prato paludoso, prato avitato a vicenda, prato avitato ad acquatorio, prato avitato ad acquatorio a vicenda. Poi i due tipi di risare, la risara semplice e la risara a vicenda, la risara stabile e la risara a vicenda, il ronco con le olive, il ronco spesso, poi fusi in una voce sola, il sito, che è la superficie da mulino a casa, e la vigna. E questo nella grande speranza che venisse fuori l'importanza del vigneto specializzato, insomma, invece non viene fuori così niente. Ma vabbè, questa è semmai una voce che può sparire dentro nell'aratorio abitato, perché in pratica è irrilevante, poi quando riferirò dei risultati si vedrà che la superficie è praticamente irrilevante. Quindi questo è stato il secondo ordine di problemi, no? Il terzo, la determinazione delle classi di ampiezza delle partite catastali. Anche qui non sto a dire, perché è troppo chiaro, insomma, l'importanza di questo elemento, no? Cioè del disporre appunto dei dati per la superficie in valore per classi di ampiezza, no? Delle partite. E qui la cosa è stata semplice, relativamente, abbiamo confrontato un po' tutti i criteri usati dalla letteratura e poi abbiamo convenuto che la classificazione migliore era quella ancora pugliese, romani, tanto perché lombarda, e poi perché si vede subito, abbiamo utilizzato 7 classi di ampiezza, li do in ettari, e fino a 3 ettari, poi da 3 a 30, no, in perti, sì, pardon, sì, giusto, l'ho scritto, questa è la cosa che ha ragione, attenzione, perché sto dicendo, ho letto male due cose, e ve li do in ettari, fino a un quarto di ettaro, da un quarto di ettaro a 2 ettari, da 2 a 5 ettari, da 5 a 10 ettari, da 10 a 40, da 40 a 200, 200 ed oltre. No? Quindi sono sette classi. E quello che stavo leggendo prima era impertico, sì, infatti, ma il minimo 3 è decisamente il tanto. Naturalmente questa, anche qui siamo molto consapevoli del modesto valore economico, diciamo, no? In termini di valutazione della realtà economica ed agraria di questa classificazione, e per diversi ordini di ragioni, insomma, perché il catasto ci dà le partite, no? Ci dà le partite per comunità. Solo una ricostruzione sulla mappa catastale permetterebbe di identificare l'azienda, insomma, quando l'azienda si estende al di là dei confini della comunità. Però quindi il nostro ragionamento è relativo alla partita, non può essere non sono le classi di ampiezza per le aziende, di appartenenza delle aziende, ma delle partite catastali. Su questo non ci devono essere equivoci. Sono solo per il pertitato o anche per lo scudato? Anche per lo scudato. No, dunque, le classi di ampiezza sono relative alla superficie e hanno accanto la colonna dei valori dello scutato, insomma, no? Quindi del valore catastale attribuito. Ha fatto anche stessa operazione per lo scutato? No, non è, ho capito. Lei chiede se abbiamo creato delle classi di imponibile, diciamo, no? Perché riteniamo che sia impossibile. Questa è un'opportuna precisazione. È impossibile perché questo è valido all'interno di ogni comunità, ma non per tutto lo Stato, perché la determinazione dello scutato è proporzionale dentro, è una frazione per ogni comunità, non è adottata sulla base di un criterio unico per tutto lo Stato o per le zone agrarie. Certo, ci possono essere dei, però io nell'incertezza non ho proceduto in questa direzione, la possibilità c'è comunque. Ecco, vabbè, comunque se permette. Vabbè, semmai poi dopo discutiamo della cosa. Ecco, questo è un punto importante, insomma, è sottolineato. Io l'ho messo tra le cose che ritengo non come un obiettivo non perseguibile, insomma, per tutto lo Stato. Ma comunque, quarto problema, la determinazione delle classi di produttività del terreno. Qui non c'è stata nessuna scelta perché abbiamo adottato e utilizzato i sette gradi di produttività decrescente che gli stessi stimatori hanno utilizzato, insomma. Per cui nel valutare l'appartenenza, come dire, dei terreni, la classificazione dei terreni per gradi di produttività, abbiamo adottato queste sette categorie. Questo è uno degli aspetti più carenti, secondo me, perché è chiaro che questa è la produttività valutata agli effetti della stima catastale. Una piccola parentesi. Ha invece ben diverso valore il materiale preparatorio di tutto questo, sul quale io non mi trattengo, cioè i gradi di produttività che figurano, le squadre cosiddette, che figurano, sono il risultato di una valutazione che ha dietro tutte le minute di stima. Ecco, l'importante sono, e utilizzabilissime sono le minute di stima, mentre invece questo qui finisce per essere un parametro in cui ripartire in sette classi, appunto, in sette squadre, ma a ripartirlo agli effetti poi della determinazione dello scutato, diciamo. Prego. Chiedo scusa. Le sette categorie del paese A e del paese B sono diverse? Certamente. E lo stesso discorso fatto prima. Valgono per ogni comunità, hanno significato perché sono proporzioni all'interno della comunità e non sullo Stato. Certo, è il problema che avevo. Lo avevano questo problema al punto tale che si sono sempre rifiutati di fare l'anagrafe tributaria perché ritenevano che non avesse nessun significato. Non era paragonabile il mio scutato con lo scutato uguale di un'altra comunità perché era un puro parametro. Questo è il punto. Allora, su questo non c'è quasi niente da dire perché, ripeto, abbiamo adottato in piena. Quinto e tragica questione invece, sulla quale ho bisogno della solidarietà, abbiamo bisogno della solidarietà e della comprensione. La determinazione delle categorie sociali. E qui già la presenza del professor Mozzarelli mi fa tremare perché so che lui poi è così. Il problema è delicatissimo. Noi eravamo preoccupati di una cosa, limitiamo il tutto a questo, mettere in evidenza, come dire, alcune tendenze, insomma, no? Qui il terreno è minato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo proceduto in questo modo, abbiamo creato alcune categorie, alcuni grandi gruppi, persone giuridiche private, persone fisiche, persone giuridiche private, persone giuridiche pubbliche, enti caritativi, enti religiosi ecclesiastici, enti religiosi laicali, enti ecclesiastici minori, enti ecclesiastici maggiori. E cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che tutto ha dato luogo poi, per successivi raggruppamenti, a 20 categorie sociali. Lasciate disaggregate anche qui, 20, insomma 20 sono tante, insomma, per dare un... Però anche qui la disaggregazione può portare poi ad aggregazioni, a compattamenti, a secondo dei criteri. Quali sono le 20 categorie? Le 20 categorie sono queste. I nobili, compresi i don, quelli che figurano, però disaggregabili per noi, sono stati riportati sugli schedoni, cioè, che poi Bianchi spiegherà, noi possiamo, dall'elenco anagrafico che abbiamo, di tutti quelli che appartengono, che è qui, che farò vedere poi, noi abbiamo un elenco anagrafico in ordine alfabetico di tutti quelli che abbiamo messo in queste categorie, distinti in pieni proprietari e nudi proprietari, e in cui è possibile disaggregare quelli che figurano con il titolo da quelli che figurano indicati semplicemente con il don. Perché su queste cose qui ci siamo rotti la testa, abbiamo chiesto pareri a destra e a sinistra, ma tutti quanti ci hanno detto che non era una cosa determinabile, insomma, se non lavorando, come dire, sui singoli, insomma, cioè andando alle persone, insomma. Gli ecclesiastici, intendendo qui l'intestatario di partita, e che reverendo, insomma, ma suora, curato, gli altri, per non chiamarli borghesi, insomma, no? Quindi i nobili, gli ecclesiastici, gli altri. Poi abbiamo creato una cosiddetta categoria degli incerti, sono lo 0,64 dell'universo esaminato da me, su 71.417 partite sono 375, cioè sono quelli che non identificabili, insomma, perché beh. Poi abbiamo creato due categorie di comproprietari, la comproprietà di altri, cioè l'intestazione di più proprietari, comproprietari, ma tutti borghesi o altri. E poi abbiamo dovuto creare la comproprietà mista, in cui abbiamo messo dentro quello che creava, d'altra parte è lo 0,29% delle partite, della parte pianura e collina. Sono 174 in tutto con proprietà miste, che non era possibile perché c'era dentro un nobile, c'era dentro un reverendo, c'era dentro, veniva una cosa impressionante, insomma, e complicata. Poi il legato, poi l'eredità giacente e la comproprietà indivisa, unificandole nella stessa categoria. Comunque era il 2,72% del tutto. Poi la categoria degli ordini professionali, collegi professionali, le comunità, comune, città, vicinanza, patrimonio del comune, patrimonio della città e così via. Poi la Camera Regia, Regio Fisco, carcere, prigione, balosso, magistratura, magistrato, eccetera, eccetera. Poi la categoria degli enti di carattere beneficenziale, no? Consorzio dei poveri, mensa dei poveri, orfanelli, monte di pietà, carità, pietà, misericordia, tutte queste cose. Poi gli ospedali, luogo pio, lazzaretto, eccetera, eccetera. Poi gli ordini religiosi, famiglie religiose, congregazioni ecclesiastiche. Poi le confraternite laiche, la scuola, la dottrina, la compagnia, la confraternita, la congregazione, il consorzio e così via, che risultasse formato da laici. Le abbazie, assimilandole ai monasteri e ai conventi. I seminari, le mense vescovili, i benefici, o meglio tutti i lasciti a scopo di culto, la cappellania, la cappella, il sepolcro, la fabbrica, la fabbriceria, l'oratorio, l'altare, la cattedrale, il duomo, la mensa quotidiana, i nomi dei santi. Molto spesso un pezzo di terreno è lasciato per una messa, no? E poi i collegi e le scuole. Quindi, come vedono, sono 20 categorie che si possono raggruppare, no? Si possono raggruppare. Noi le abbiamo lasciate disaggregate così, io riferirò poi i miei risultati e lui i suoi più o meno seguendo questo tipo di distribuzione. ma certamente poi nel prodotto finito comporterà qualche valutazione che metterà insieme, insomma, no? La proprietà ecclesiastica nel suo insieme rispetto alla proprietà borghese, rispetto alla proprietà nobiliare. In fondo qui si tratta di ragionare per grandezze rilevanti, insomma, no? Per cogliere alcune tendenze. Queste sostanzialmente, queste cinque sono le questioni, insomma, che abbiamo dovuto affrontare e i modi come le abbiamo affrontate. I risultati della ricerca sono quelli che appunto Bianchi ed io illustreremo appena finito questa prima parte di presentazione. Sono risultati che consideriamo per i tabulati evidentemente definitivi e consideriamo invece parziali per quel che riguarda poi, come dire, la presentazione finale, insomma, no? Qualche ulteriore riflessione, perché no? Il risultato anche di questa discussione, insomma, che andrà citata come un'occasione per affrontare queste questioni. Ho ancora una cosa da dire, i limiti della ricerca, proprio quelli più generali, oltre a quelli che ho segnalato su ogni singolo punto, che sono dati dalla natura del materiale. No? E sono questi sostanzialmente. Noi abbiamo lavorato sulle partite e non sulle ditte catastali. Quindi la quantità di terra, per esempio, complessivamente riferibile ad un soggetto non risulta. L'anagrafe, l'elenco complessivo, non è possibile. Non è possibile perché le omonimie non ci permettono di lavorare su questa scala. Io poi farò vedere qui l'elenco anagrafico in ordine alfabetico del proprietario. Quando ci fa trovare un principe Trivulzio, non ci sono dubbi, quando ci fa trovare 30 Luigi Brambilla, non c'è la paternità. No, non c'è la paternità. Talvolta, quando nella comunità c'era la possibilità di confondere due soggetti, allora di uno si indica la paternità, ma non sempre. Soprattutto non si indica, mi pare, al 20% dei casi, abbiamo calcolato forse un po' di più, la residenza. Quindi non figura. La residenza sarebbe stato un elemento importante, insomma. Quindi ragionando sui grandi numeri, lavorando a questo livello qui, abbiamo dovuto scartare per non rischiare. Il che non vuol dire che stiamo già facendo alcune cose specifiche in profondità, no? In certe direzioni, poi vi dirò. Però nella presentazione dei dati complessivi questo non c'è. E il numero si riferisce alla partita catastale e non alla ditta. No? Non alla ditta. Quindi non si riferisce... No, alla partita per dire che si... Certo, si riferisce, cioè, all'insieme di superficie, no? Composto da un certo numero di partite, che sono in capo al professor Cova. Per la comunità di Trento, quello che lui possiede a Gardolo piuttosto all'altra parte non è accorpabile, questo è il punto. Quindi il numero è un numero per eccesso. Queste 71.417 partite, se accorpate, se unificate, daranno certamente, quando mai ci arriveremo, a un numero minore, perché non sono i proprietari, certamente, perché lo stesso numero... No? Ah no, certo, no, è per eccesso rispetto al numero dei proprietari, sì, delle ditte, certo. Il numero delle ditte sarà inferiore al numero delle partite, questo per ovvie ragioni, insomma. Questo spiega anche il relativo valore poi delle distribuzioni per classi, eccetera, eccetera. Ho già detto, secondo limite, le partite e non le aziende agrarie, e non l'azienda. Se poi la partita, ragionevolmente, come si presume, insomma, no? La partita coincide con l'unità di cultura, questo secondo me è abbastanza tranquillo, cioè voglio dire che il limite della partita, il confine della partita fosse anche il limite dell'unità aziendale, insomma. Però siccome non siamo sicuri di questo, nell'irrigo soprattutto, in presenza di grande proprietà, no? Una proprietà come quella dell'Ospedale Maggiore che ha più comuni interi o parte di comuni contigui, non si vede perché dovesse rispettare la delimitazione comunale come delimitazione anche dell'unità aziendale. Voglio dire che l'unità aziendale non comprendesse terreni che fossero, che costituissero due partite, ma un'unica azienda, insomma. Io il dubbio ce l'ho, ed è un dubbio che mi consente, che mi obbliga anzi, a non considerare la partita se non come tale, insomma, non come aziende, non come, quindi il numero delle partite non è il numero delle aziende, questo per cautela. Se dopo una verifica sulla mappa, una verifica, come dire, nell'archivio di enti, di grandi enti proprietari, mi consentisse, ma lo faranno quelli che verranno, appunto, sono cose, lo farà non so chi, insomma, cioè, probabilmente solo lavorando su piccole aree, no, è possibile arrivare a risultati diversi. Naturalmente, terzo punto, l'ampiezza, quindi la ripartizione per classi si riferisce alle partite e non alle aziende. Ecco, e qui avevo messo la cosa che lei aveva sollevato, la classificazione per classi di ampiezza e non per classi di reddito imponibile. Perché la possibilità di creare classi di reddito imponibile per tutto l'universo presuppone che le classi di reddito siano create con un metro solo. Mentre invece qui le classi di i valori catastali sono stabiliti come frazione di un'unità che è la comunità. È la comunità che determina l'unità e lo scutato, che poi è il valore catastale, altro non è che il parametro che permette di dividere l'imposta attribuita alla comunità. Sulla testa della comunità cade un'imposta di 100, questo 100 si ripartisce tra i 30 soggetti intestatari delle 30 partite con carature diverse che corrispondono al valore e quindi allo scutato. Scusi, no, ma quando io parlavo di scutato, per il matto, intendevo la rendita netta che è calcolata. Oh. No, io qui intendo, chiaro, allora qui intendo ciò che noi troviamo nel registro, cioè nel registro questo non c'è, nel registro c'è la cultura, c'è la superficie, c'è il valore unitario, c'è il valore complessivo catastale e non c'è altro. Quindi di fronte a questi, io ho lavorato su questi dati qui, la pagina di registro che è qui e che poi possiamo far vedere. Il registro che poi è la tavola decimo, se ho capito. No, è il registro, cioè è ciò che appartiene agli uffici interni del catasto, non è ciò che viene dato alla comunità che si chiama catastrino. Non è quello su cui vengono di volta in volta caricate i trasferimenti o le volture. No, è quello che serve all'ufficio per consolidare sul registro stesso l'insieme di elementi stabiliti per la prima volta dagli stimatori, verificati attraverso le denunce dei proprietari, stimati una seconda volta e poi diventati definitivi. Comunque la pagina del registro è questa qui, in formato naturale, col permesso del dottor Paganini, che io sarei venuto qui con un registro, ma sapendo che c'era lui non è stato possibile. Questa è la pagina del registro e i dati contenuti nel registro sono questi e non altri. Ora sarebbe stato interessante fare quello che sui catasti moderni si fa, cioè la creazione di categorie, di classi di reddito imponibile per tutto, ma non è possibile perché, ripeto, è relativo solo alla comunità. Ho finito, un ultimo punto e poi possiamo procedere alla discussione. Gli sviluppi della ricerca. Ecco, noi siamo già a un buon punto, non solo, come dire, tanto è vero che rendiamo conto di quello che abbiamo fatto prima della pubblicazione, la pubblicazione dimostrerà questo. Noi siamo arrivati, come dire, ad alcune certezze che scaturiscono da questo tipo di organizzazione della ricerca. Però il materiale che così si è accumulato, in modo particolare gli elenchi anagrafici, no, in ordine alfabetico, delle varie categorie di intestatari di partite, ci consente, e già lo stiamo facendo con buoni risultati, di arrivare all'individuazione proprio specifica, insomma, del proprietario. Abbiamo già tentato, naturalmente, affrontando le piccole categorie, no? Cioè, abbiamo preso per esempio i seminari e siamo andati alla ricerca, siccome era un numero tutto sommato limitato, con ricerche d'archivio che, si è detto subito con grande chiarezza, comportano l'impiego di un cumulo di altre fonti, per cui questa finisce per sparire, questa costituisce, questo è il bello della cosa, secondo me, che tutto questo gira e rigira è niente altro che un grande strumento di lavoro per andare oltre, perché se uno si ferma qui è morto, insomma, no? Questo è il punto di partenza, è un punto di partenza che dà certe grandezze, certe proporzioni, certe tendenze, che modificano un pochino quelle conclusioni di Pugliese, che sono in tutta la nostra letteratura, che verranno riviste alla luce di queste cose, ma soprattutto consentono appunto di andare in profondità, no? Di andare in profondità e per l'utilizzo di tutto il materiale che poi porta al registro, le minute di stima, tutte queste cose che sono disponibilissime, insomma, no? E che sono, come dire, il sostegno del dato consolidato, sia soprattutto per quello che si può aggiungere. Per esempio, con l'elenco dei seminari proprietari e con le loro proprietà, è stato possibile, andando in altri fondi dell'archivio di Stato, ritrovare, come dire, la documentazione specifica, insomma, no? Per cui c'è una conferma, ci sono dati che arricchiscono molto, insomma. Voglio dire che a questo punto, per esempio, uno studio, un saggio avente ad oggetto la proprietà fondiaria dei seminari dello Stato di Milano, dico una cosa, una facezia, insomma, o dei grandi monasteri, per esempio, e diventa una cosa possibile perché il punto di partenza è l'elenco, no? E l'elenco è una prima valutazione, come dire, della superficie, del valore catastale, ma soprattutto della superficie e della località in cui possiede, perché l'elenco anagrafico ci dà, dopo farò vedere, ci dà tutte le partite, ci dà tutte le partite imputabili a quel soggetto. Non mi contraddico, se il soggetto figura due volte, vengono accorpati come se fossero distinti, insomma. Noi avremmo voluto poterli mettere insieme in un unico, ma l'incertezza per l'omonimia ci ha impedito questa cosa. Ma un lavoro successivo di chiarimento chiarisce anche l'omonimia, evidentemente, no? Se noi andiamo ai registri, noi andiamo alle notificazioni, noi andiamo ai singoli fondi comunali, bisogna ricostruire in pratica tutta la realtà, insomma, di una comunità, più comunità. Quindi è una cosa che io sinceramente vedo oltre la pensione, insomma, per me, per generazioni che volessero perdere tempo in queste cose. Quindi un primo tipo di lavoro è l'approfondimento, l'ulteriore sfruttamento di questo. Un altro tipo di lavoro che abbiamo già impiantato per una zona è verificare l'evoluzione di tutto questo tra il 730, diciamo, e il 760, no? Perché al momento dell'entrata in vigore del catasto c'è tutti i passaggi, insomma, no? Quello che è poi il punto di partenza dell'imponibile, che naturalmente ha dovuto registrare i cambiamenti avvenuti tra il registro 730, perciò poco, e il registro 760. E quindi ci sono due momenti sui quali è possibile cogliere l'evoluzione, ed è un'evoluzione notevole, anzi con qualche preoccupazione, insomma, di riuscire a dominarla tutta, no? Perché spezzettamenti, modifiche, insomma, sono intervenuti in questo trentennio, non a caso è il trentennio che ha in mezzo, no? Quello che ha in mezzo, le vicende della guerra, poi il nuovo assetto, insomma, è tormentato, e quindi questo si è in qualche modo riflesso sulla struttura della proprietà fondiaria e del paesaggio agrario. Ecco, io avrei terminato, naturalmente sono andato un po' per le lunghe perché sono loro, 4:15, beh, è un'oretta. Possiamo far parlare Bianchi sugli aspetti tecnici, diciamo, chiedendogli magari di essere molto anche perché stringato. Come si dice? Perfetto, stringato. Ecco, poiché abbiamo usato il calcolatore, almeno per la parte che riguarda la pianura e l'altopiano, questa qui descritta, evidentemente abbiamo dovuto fare tutto un impianto precedente. E i dati catastali, i dati dei registri catastali prima mostrati in fotocopia con grandezza originale, noi li abbiamo riportati su questi grandi schede che chiamiamo schedoni. Quindi li abbiamo ricopiati, tutto il catasto, tutti i registri catastali li abbiamo riportati su delle schede predisposte, stampate, con un lavoro manuale. Quindi un lavoro che ci è costato parecchio e che è durato parecchi anni. Questo è, adesso spiego come è fatto, questo è per una singola partita catastale, cioè a dire, abbiamo preso il registro e il nome qui c'è Appiani Cesare, a registro è scritto qui di fianco, noi l'abbiamo messo in testa, Appiani Cesare, e poi già predisposto lo schema, abbiamo messo i pezzi, cioè le particelle catastali di mappa, abbiamo posto... E la riproduzione del registro. La qualità della coltura, che sarebbe il prato, il perticato in pertiche tavole, gli eventuali gelsi, qui non ne compare neanche uno, la squadra, cioè la produttività, la stima unitaria, stima unitaria per pertica e il valore capitale che è il prodotto, come diceva il professor Zaninelli, tra appunto il perticato e la stima. Questo è stato il primo materiale necessario per poter poi disporre dei rilievi da inviare al calcolatore. Quando abbiamo avuto lì la gran massa delle schede catastali, questi schedoni, che noi insomma in gergo chiamiamo schedoni, ci siamo accorti di aver lì qualcosa come, soltanto per la pianura e l'altopiano, qualcosa come 85.000 intestatari. E quindi necessariamente già avevamo predisposto l'impiego del calcolatore e qui di fatto l'abbiamo usato, perché non si poteva fare altrimenti, gestire una quantità di dati simili. Questo ha preliminarmente significato ricomporre in capo ad una serie di colture, come ha detto il professor Zaninelli, stringere tutte le colture e codificarle. Quindi le 365 colture prima dette si sono ridotte a 43, e a queste 43 colture prima così esposte, cioè aratorio, aratorio vitato, aratorio vicende, eccetera, eccetera, a tutto questo abbiamo dato un codice, abbiamo dato un numero 1, 2, eccetera, eccetera. Voglio dire che i tabulati di cui il professore prima parlava danno le valutazioni di 36 colture, perché appunto noi abbiamo chiesto 36 tipi di colture, abbiamo accorpato alcune colture. Questo non vuol dire che il calcolatore invece ne ha introdotte a nastro 43, quindi qualsiasi successiva elaborazione richiesta dal calcolatore può essere fatta su 43 colture. Così dicasi poi per i gruppi sociali di appartenenza dei titolari. Si sono stati individuati 65 gruppi, tra virgolette, sociali, no? Abbiamo sentito abbazie, enti religiosi, monasteri, via discorrendo. E il calcolatore ha immesso a nastro analiticamente i 65 gruppi. Poi il professore ha detto che abbiamo estrapolato invece 20 gruppi sociali, perché alcuni li abbiamo impaccati, tipo gli altari, gli oratori, che so, le chiese, i nomi dei santi e via discorrendo. Il calcolatore però successivamente, allorquando si decidesse di fare una richiesta per esempio di quanti altari c'erano, poiché la voce altari è messa a calcolatore singolarmente con un numero di codice, può benissimo dare l'estrapolazione di quanti altari c'erano e quanto possedevano. Successivamente sono state individuate le zone agrarie, e le zone agrarie prima riportate analiticamente anch'esse sono state codificate con un numero, con due cifre in particolare, che so, l'alta collina prealpina col numero 21, l'alta e media collina col numero 22, via discorrendo. Dopodiché è stato fatto un lavoro di caricamento dei dati a calcolatore. Allora, come abbiamo proceduto? Abbiamo proceduto in questo modo. È stata fatta una nuova ricopiatura su questi moduli, che noi chiamiamo la modulazione, della parte, diciamo, nominativa, del nominativo, del luogo di residenza, del gruppo sociale di appartenenza del titolare, della zona agraria, del numero dei proprietari, cioè una parte anagrafica, e dopodiché da questi moduli è stato portato tutto a scheda perforata. Ecco, qui possiamo dire che riporta tutta la parte anagrafica, cioè dire questa intestazione in alto dello schedone, cioè dire il nome, il sesso, la pieve, la comunità e la zona agraria. Dopodiché, sugli schedoni stessi, nella parte lasciata libera per il calcolatore, abbiamo ancora codificato le colture, cioè ad ogni coltura prima detta, le 43 colture, le abbiamo codificate. Dopodiché sono state portate ancora ad altre schede perforate le colture. Quando abbiamo avuto le schede perforate della parte anagrafica e le schede perforate delle colture, c'è stato il momento della fusione. Ora, affinché tutto procedesse in un modo sincrono, in un modo che non andassero disperse i due tipi di scheda, entrambe le schede avevano un numero. Quindi, che so, costui, la Piani Cesare, che so, supponiamo avesse avuto il numero 1200, a schedone, abbiamo riprodotto sulle schede perforate nella sua parte anagrafica il numero 1200 e nella parte quantitativa il numero 1200, tale che i due 1200 danno appunto il nome Cesare Appiani con tutta la sua parte quantitativa. Questo è il grosso lavoro. Come si è proceduto all'interno? Ecco, io adesso entro un attimo in parti un po' tecniche, quindi magari non troppo accessibili. Comunque, per quanto concerne, perché tutto è stato fatto, scusate, a cifre al di là del nome, che il nominativo era scritto in alfabeto, insomma, tutto il resto è stato messo a numeri. Quindi, il sesso è stato codificato maschio 1, femmina 2, più persone fisica 3, persone giuridiche 4, ignoto 5, persona fisica e persona giuridica 6, quindi anche lì tutto un lavoro di preparazione per individuare le singole categorie. Poi interessante le comunità indicate nell'elenco alfabetico del compartimento dello Stato di Milano. Ecco, a questo proposito mi permetto di dire che la rilevazione catastale è stata fatta in base al compartimento dello Stato di Milano del 1757, con la situazione appunto delle terre alle pace di Aquisgrana, quindi del 1748. Quindi sono escluse, per esempio, il Vigevanasco non c'è, arriva fino al Pavese e il Vigevanasco è fuori, anche se i registri del Vigevanasco esistono. Quindi è la fotografia del 1748 usando i dati del 1729-1731, che sono appunto le date in cui sono messi i registri. Ora dicevo, come abbiamo fatto per codificare la comunità di residenza oppure la comunità in cui esistevano i beni, per esempio qui Monbello nella Pieve di Leggiuno? Abbiamo proceduto in questa maniera: le comunità indicate nell'elenco alfabetico del compartimento territoriale dello Stato di Milano hanno avuto un numero in base al compartimento, alla pieve o delegazione di appartenenza e in base alla loro elencazione in seno alla pieve o delegazione stessa. Faccio un esempio: la comunità di Seregno, che secondo il compartimento territoriale suddetto si trova elencata nel primo compartimento, Ducato 1, nella 17ª pieve, nella pieve di Desio 17, nella 19ª posizione all'interno della pieve di Desio, quindi comunità di Seregno 19, la codifica è 1-17-19. E quindi i nostri dati e poi i tabulati che il professor Zaninelli farà osservare sono proprio tabulati secondo queste codifiche, quindi si leggono attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione. Io leggo dei grandi numeri, salvo il nominativo del soggetto intestatario, Cesare Appiani e basta, tutto il resto il calcolatore lo dà a numeri. Quindi questa è appunto la leggenda per capire cosa si può vedere dai tabulati. Chiedo scusa una cosa, per un momento, l'importanza di queste notizie qui, qui c'è il dottor Paganini, è questa, qui c'è il dottor Paganini che può confermare, volevo dire. E noi abbiamo deciso di mettere a disposizione dell'archivio di Stato tutti gli schedoni che abbiamo prodotto e anche, come dire, il materiale successivo fino ai nastri compresi. Quindi gli studiosi che sono qui presenti sanno che, fatta riserva per i risultati che sono nostri, insomma, voglio dire questi qui, insomma, poi tutti gli altri possibili dipendono da questa lettura, no? Quindi questo materiale tabulati di base anche, no? Gli stessi elenchi anagrafici sono dentro certi limiti disponibili, non all'archivio di Stato ma all'istituto, ma tutto il resto è disponibile, perché noi trasferiamo tutto all'archivio di Stato. È un accordo, lei lo può confermare, che abbiamo fatto perché è legato ad una cosa molto ampia e molto interessante, cioè l'archivio di Stato di Milano, con l'appoggio dell'archivio di Stato centrale, insomma, sta procedendo ad un esperimento interessantissimo, cioè la creazione di una banca di dati, diciamo, ed ha scelto come punto di partenza, inizialmente si pensava questo insieme di dati, e noi abbiamo fatto presente che i dati c'erano, siccome sono stati pagati con denaro pubblico, perché CNR è denaro nostro, noi abbiamo ritenuto, finita la ricerca, di metterlo a disposizione, quindi era inutile ripetere tutta l'operazione, dal momento poi che questi dati sono comunque utilizzati, noi li abbiamo utilizzati in questo modo, ma basta porre al calcolatore delle altre domande e vengono fuori delle altre risposte, perché i dati di base sono tutti lì, insomma, no? Non li tocca nessuno. Quindi c'è questa possibilità da un certo momento in avanti, e quindi è opportuno, come dire, farci un'idea di come mettere, insomma, perché l'utilizzo è legato a queste conoscenze minime, insomma, tecniche di come abbiamo proceduto. Ma credo che ci sia. Sì. Poi il tipo di proprietà ha avuto la seguente codifica: la piena proprietà abbiamo dato il numero 1, il nudo proprietario, cioè il livellante, l'abbiamo chiamato 2, il livellario il numero 3. Infine il numero dei titolari è stato tradotto in codice nel modo seguente: unico 1 con proprietà di 2 persone 2, con proprietà di più di 2 persone 3, incerti se 2 o più persone 4. I dati posti sui moduli sono stati quindi trasferiti su schede sperforate, come ho detto, e portati a nastro. Anche per la squadra abbiamo proceduto in una classificazione, cioè i tipi di produttività di terreno. La prima squadra numero 1, la seconda squadra numero 2, eccetera, eccetera, fino alla sesta numero 6, l'unica squadra l'abbiamo data il numero 7. Dopodiché abbiamo fatto dei controlli, e questo è stato il grosso lavoro per controllare quanto il calcolatore produceva, cioè andare a vedere fisicamente se quanto il calcolatore produceva corrispondeva alle nostre schede e ai nostri dati, quindi sono stati veramente tutti controllati. La fusione dei due nastri così ottenuto, anagrafico e fondiario, ha fornito anzitutto l'elenco alfabetico per gruppi sociali dei titolari, per i tre regimi di possidenza, per la piena proprietà, la nuda proprietà e il livello. L'elenco permette una prima conoscenza del complesso problema della distribuzione fondiaria nello Stato di Milano per il primo Settecento. E detto elenco presenta appunto il numero di schedone, la comunità dove è situato il bene fondiario, la zona agraria, il sesso del titolare, l'eventuale comunità di residenza del titolare quando era espressa, il gruppo sociale di appartenenza del titolare, il nominativo, la coltura, la superficie espressa in tavole e la stima in centesimi di scudo. Ecco, questo da tener conto. Successivamente sono state formulate al calcolatore altre richieste che concernono le seguenti domande a cui sono state date risposte. Primo, in generale, la distribuzione della superficie per tipo di coltura. Cioè a dire. Beh, Bianchi, scusi una cosa, a questo punto qui forse è inutile, sì. È meglio che glielo diciamo come, ecco, risultato, perché questi infatti sono, poi contano come risultato. Benissimo. Cioè, una serie di quesiti. Una serie di quesiti. Tutti questi quesiti hanno avuto risposta per dati in valore assoluto e poi in particolare per dati in valore in percentuale. Ecco, questo stringatissimo. Sì, forse c'è ancora qualcosa che lei ha trascurato. C'era un problema grosso, che era quello di mettere nel calcolatore i dati relativi a cifre non decimali, perché questo era un problema, no? Sì, ecco, questo abbiamo tradotto tutto in altre cifre. Sì, cioè con un rapporto, sì. Sì, in centesimi. In centesimi, per forza. Quindi risultano scudi e centesimi di scudo, perché non era possibile far diversamente. Dopo si recupera, bisogna fare un calcoletto naturalmente, perché d'altra parte non si poteva fare diversamente. No. Non per fare, come dire, lo stregone che mostra quello che le note, insomma. Ecco, per esempio l'elenco anagrafico delle abbazie, se non sbaglio, sì, delle abbazie, è questo, io l'ho di fronte. Da una parte c'è quell'insieme di numeri che indicano la località, no? Lo stato, la pieve, la comunità, poi c'è Abbazia di Chiaravalle, naturalmente più volte Abbazia di Chiaravalle perché, per la ragione detto prima, non compattata, e poi una serie di numeri che indicano la superficie e i valori delle singole partite, facenti capo all'abbazia in una comunità. della partita meglio facente in campo in una comunità. Ecco. Ed è su questo che appunto io dicevo si possono condurre questi lavori di ulteriore approfondimento. E qui per esempio ci sono, ce ne sono, l'abbazia di Sant'Antonio, adesso non riesco Sant'Abbondio di Como. Sant'Abbondio di Como è enorme, cioè è un elenco, come dire, si ripete con blocchi di proprietà notevolissima, insomma, no? Che però per noi restano ancora delle partite distinte, ecco, per le ragioni dette prima. Ci sono io adesso per recuperare l'eccesso di limitazioni che ho posto, insomma, recuperarle in positivo, certe cose si possono fare, voglio dire, è vero che le omonimie rendono impossibile quel discorso generale di accorpamento, però per certe categorie, insomma, i monasteri... Al di sopra di 40 ettari. Difatti, cosa abbiamo fatto? Poi chiudiamo e discutiamo. Abbiamo già proceduto a questo, a fare un esperimento, cioè sulla base della classe di ampiezza abbiamo cercato di vedere quanti sono le partite che stanno dentro nominativamente, no? E quindi abbiamo questo elenco, e qui c'è il numero, qui c'è per esempio tra oltre i 200 ettari ci sono questi proprietari in ordine alfabetico. È una sorta di indice questo, perché ci dà il nome e ci dà qui il numero di schedone. No? Il numero meglio che ha detto bene Bianchi è quello della partita, quello che noi abbiamo attribuito alla partita quando l'abbiamo messo in ordine. Per cui se io trovo qui per esempio che Acchinto Conte Carlo, no, ricorre più volte perché è uno dei grandi proprietari, è uno di quelli che, le cui partite hanno un'ampiezza che figura oltre i 200, i 200. E qui accanto il numero vi permette di andare poi a pescare la partita. Cioè, non ho capito bene, se uno una volta ricorre con oltre 200 ettari, tutte le partite anche più piccole sono... No. Difatti, calma. Procedendo all'inverso, noi abbiamo un primo elenco che è scrivincito di proprietari che risultano intestatari di partite superiori alle 200, ai 200 ettari. Però, e poi abbiamo anche l'elenco molto più nutrito, come si vede dalle pagine, di coloro che appartengono alla categoria inferiore, diciamo. Ora, i nomi che sono qui dentro ricorrono anche là. Allora bisogna fare l'accorpamento, nel senso che è chiaro che lo stesso Acchinto Conte Carlo possiede partite superiori alle 200 e poi ne possiede inferiori alle 200, ma in numero che messe insieme, però noi le abbiamo così come si trovano come partite e non si potevano toccare, perché sennò bisognava far precedere l'accorpamento e poi fare la classificazione. Ma noi possiamo dire definitivamente. Quindi questa è un'ipotesi di ricerca, non sì, cioè sì, dire intestare in capo ad un proprietario tutte le tasse. Zanilelli mi dice che si è avvalso della diciamo, determinazione delle zone agrarie, dei criteri romani pugliesi che praticamente poi confluiscono nel riferirsi come asse alla altimetria, no? Sì. Criterio accettato è quello dell'altimetria. Ecco, che poi è stato poi il criterio adottato da Ghino Valenti nel 1910. Mi chiedo, non che ci siano state grandi differenze di altezza o di coso tra il 1910 e il 1720, però la natura del territorio potrebbe essere diversa. Mi riferisco al processo di arretramento dei ghiacciai, soprattutto in montagna. Zone che prima erano coperte dai ghiacci, poi dopo sono state invece sfruttate. Cioè, lo abbiamo sott'occhio sul ghiacciaio della Brenva, su Amfrel, quando ero bambino ci giocavo io. Adesso le sue prese in mente sopra, scusate, fate il corpo di Venezia, a 300 metri sopra. Lo stesso è avvenuto anche per esempio nell'Alta Valtellina, zone che prima erano coperte che poi sono diventate, o viceversa, o zone che erano coltivate, tra il 1910 e poi. Non è possibile appurare se effettivamente la superficie agraria dell'epoca non ha risentito delle mutazioni climatiche. Non so, chiedo. La domanda invece che ti pongo a Bianchi è questa. È stata rapportata tutta l'area lombarda, diciamo, a quella successiva al Trattato di Aquisgrana, 1648. D'accordo. Non ci sono state modificazioni nelle comunità tra prima e poi. che si sappia. A me risulta, per esempio, la comunità di Corbetta nel 1720 era diversa da quanto non lo fosse nel 1756. Certo. Ho due dati che ricordo perfettamente. Allora, di questo naturalmente avrete forse tenuto conto, ma non... Due punti interrogativi. Grazie mille, per la domanda. Ora vai. Ma raccogliamo un po' di cose, insomma. Prego. Io vorrei fare alcune considerazioni, se è possibile, ecco, sul lavoro che avete presentato, che è interessantissimo, e il lavoro che io ho svolto anni fa per Mantova, se è possibile. Ecco. Intanto devo dire che, almeno come mi è parso, il catasto mantovano, che è fatto diretto da un milanese, appunto si diceva prima di Ginia Pirocco, è molto più perfetto. È molto più perfetto. Ecco, vediamo in cosa consiste la perfezione. Per esempio l'intestazione. Ecco, io ho lavorato però, lo dico subito, non sulle tavole d'estimo dove ci sono le qualità dei terreni, ma ho lavorato sui catastini perché mi interessava la distribuzione della proprietà terra. Non che non si possa fare le due cose, ma siccome l'ho fatto tutto da solo, insomma, io mi sono limitato a queste cose. Ecco, per esempio nel catastino c'è il numero di mappa, poi c'è il nome dell'intestatario, ma è esatto, in modo che non consente il nome mio, in quanto che c'è sempre la paternità, di nome, il titolo e la paternità. Poi addirittura in alcuni paesi dell'Alto Mantovano, siamo in collina dove c'è la piccola e piccolissima proprietà, addirittura c'è il soprannome in modo da evitare i casi di omonimia. Direi che poi il catasto teresiano risolve tanti altri problemi, perché nasce proprio nell'età delle riforme. È preceduto dalla riforma della nobiltà, ma non ho mai detto anche due anni fa quando ci siamo incontrati qui per la discussione appunto sul patriziato. Manto non ha mai avuto un libro d'oro della nobiltà, l'ha fondato, l'ha creato, diciamo, Maria Teresa. Per cui per la nobiltà locale non ci sono dubbi perché c'è questo elenco. Casomai il dubbio è invece per la nobiltà forestiera, non so se, ecco, è una cosa probabilmente l'ho detto anche voi. Insomma, io mi sono trovato di fronte a certe famiglie, per esempio Veronese, gli Emilei, gli Emili, eccetera, eccetera, i Dal Pozzo. Ho dovuto anche lì stabilire se erano nobili o no, adesso ho tutta una bibliografia, e lo stesso vale per la nobiltà dell'Emilia, i Mantovani, Rangoni, Torelli, eccetera, eccetera. Dico, ma il catasto teresiano appunto è accompagnato da tante altre riforme, per esempio la riforma delle comunità, la rettifica dei confini, eccetera, eccetera, della riforma degli enti ecclesiastici, per cui abbiamo a disposizione anche degli elenchi, per esempio di tutti i conventi, eccetera, eccetera. Ma proprio perché l'intestazione è esatta, si è potuto passare dalle partite alle ditte con un enorme sforzo, perché io ho fatto dei grandi fogli, non ho usato il calcolatore, ho usato solo la calcolatrice, ma questo è stato... Neanche ho usato solo la calcolatrice. Ecco, sì, rumorosissima, non di quelle cose che ci sono adesso. Sì, ma è possibile, per cui indubbiamente saltano fuori i grandi proprietari, eccetera, eccetera. Certo. Poi io ho elaborato... solo le tabelle per quella che è la superficie praticata, ma anche quello che è lo scudato, in quanto che il presupposto, appunto, il punto di arrivo del catasto teresiano, del presupposto della tassazione, che io non ho studiato, un altro problema che si deve studiare, è quello della rendita netta, cioè prima si calcola la rendita lorda, poi si levano tutti i carichi, eccetera, eccetera, si arriva alla rendita netta e capitalizzata il 4% si arriva al valore capitale. Mi scusi una cosa, perché questo è un punto importante, un chiarimento, possiamo parlare così, voglio dire, non interromperci, ma anche lo scudato permette di risalire alla rendita. Che lo scudato è la capitalizzazione al 4%, sì, per cui si può risalire alla rendita. Sì, no? però il catasto si basa appunto, si vuole appurare la rendita netta, non l'intrinseca capacità di quello che è. Per esempio in bolognese l'intrinseca capacità, certo, eccetera. No, questo è comune, ecco. Dei dati sono poi i problemi, ecco, anch'io ho avuto dei problemi comuni a voi, ho detto quelle delle classi di superficie e d'ampiezza. Insomma, io le risolto. Sono valori empirici che non credo che si possano stabilire una volta per tutte. Per esempio, Zangari ha delle categorie molto più ampie delle mie. Sì. Ecco, perché? Perché nel Mantovano c'è una proprietà, direi, piccolissima, per cui ho dovuto adottare delle categorie, altrimenti questa frammentazione della proprietà spariva. Spariva, e loro ho dovuto adottare, qui le ho messe, inutile che le legga, ecco, cioè è tutto relativo. La grande proprietà mantovana indubbiamente non è grande come lo è quella milanese e non è come quella bolognese, cioè una grande proprietà, insomma, vista in un certo ambito, come la nobiltà mantovana non è ricca come la nobiltà milanese, insomma, è uno stato. Per gli enti ecclesiastici, voi avete letto tutte le categorie, anch'io, io ne ho identificate 14, le leggo così, abbazie, benefici, cappellanie legati, capitolo e collegiate, chiese e prebende parrocchiale, commende, confraternite, conventi, messa vescovile, monastere, oratorio, prepositura di San Benedetto, seminario di Mato, beni parrocchiali, cittadini e enti esteri, perché poi ci sono anche quelli, ci sono anche quelli. Poi ho parlato, voi avete detto altri, insomma, mi sembra molto generico, io ho messo, cioè mi hanno suggerito del pane privato non nobili, in fondo è lo stesso. Però è una categoria un po' difficile questo, perché ci sono dentro i contadini, piccole proprietà, che chiamiamo i coltivatori diretti, c'è la piccola borghesia, poi c'è quel patriziato, cioè quella ricca borghesia che vive, more nobilium, ma che non è nobile perché non è stata riconosciuta, però non è il patriziato, non è il patriziato milanese, ecco, di cui casomai può parlare anche nel Mozzarella, non certamente io. Ma c'è questo, una volta che si è fatto tutto sto lavoro, ha perfettamente ragione lei, tanti dati, tante fatiche, poi bisogna stare attenti che non siano sbagliati, perché si fanno degli errori, ci si accorge di avere solo una base, cioè c'è un lavoro per la ricostruzione, cioè per l'interpretazione, perché per me la parte più interessante, direi entusiasmante, non quella di fare tutti i calcoli, che oltretutto io non sono tanto capace, quindi ogni tanto sbagliare, ma dico, è quello dell'interpretazione, è quello che ripaga un po' la fatica, la grossa fatica. Io ho scartato subito i distretti, perché Mantova era diviso in distretti, ma è una suddivisione puramente di carattere amministrativo, non ha nessun valore. Ho proceduto perciò per zone agrarie, in fondo le zone agrarie Mantova quasi tutta pianura, solo la parte qua nord dell'anfiteatro Morenico. Però, ecco, è questo, anche questo criterio non è un vero criterio dal mio punto di vista, cioè è un criterio che può essere superato da un criterio molto più ampio, che è quello dell'interpretazione storica tout court. Perché proprio da questo punto di vista si è visto che Manto, in fondo il Ducato di Manto, era diviso in due, il Ducato di Manto e dei Gonzaga di Manto, poi le zone ex-bresciane e ex-cremonese, che erano dei rami minori che erano stati aggiunti al mantovano agli inizi del 400, che tant'è vero erano sempre stati distinti dal resto, ed erano state contraddistinte con la denominazione di nuovo mantovano, mentre l'altro, quella mantovano de Bonacorsi ancora e di Canossa, e il mantovano ecco. Ecco, direi che io apprezzo il vostro lavoro, ecco, appunto perché ho fatto anch'io un lavoro del genere, capisco lei. Però vi siete privati, al punto che siete arrivati, della soddisfazione migliore, cioè quello di interpretare questi dati da un punto di vista storico. Siamo degli asceti in questo momento. Per provenienza, sportivo. Sì, d'accordo, d'accordo. Ma dico, ma è qui che secondo me, naturalmente dopo aver pubblicato, dovreste spingere, è lì che si raccoglie tutto. Certo. E dove l'interpretazione così del catasto, che evidentemente non può dare ciò che non ha, questo è una cosa che non siamo, nessuna fonte può essere. E dà delle grosse soddisfazioni, addirittura si arriva all'archeologia in un certo senso, cioè questa, se riesci a capire cosa il Ducato di Milano è veramente, contiene tante realtà, cioè si riesce a stabilire da questo punto di vista, cioè della struttura agraria, fondiamo, che poi è quello importante, tutte le realtà che contiene in sé, il grado di unità o non unità, perché insomma il Ducato di Milano, per quanto capisco io, Cilento, Cremona, ecco, cominciano ad esserci di queste... Lo Stato di Milano. Lo Stato di Milano. Comincia ad avere delle realtà così corpose che non possono essere messe tutte insieme. Ecco, tanto per il reddito non rimane, non è che siamo nel Far West, nelle terre vergini. Quindi c'è effettivamente una pluralità di mondi, di tradizioni, di cultura che è grossissima e direi che è entusiasmante. E su questa base di un'interpretazione di carattere storico si va anche alla riscoperta di tutta una cultura. Per esempio, perché la rivoluzione francese, che è stata veramente una rivoluzione, non solo ha distrutto i beni degli enti ecclesiastici, i beni di tante famiglie, ma distrutto, perlomeno ha messo a calato i sipari su tutto un certo tipo di cultura, che era quello per esempio dei notai, che sapevano a memoria le genealogie, ma anche la storia delle proprietà. E anche nella biblioteca di Mano ho trovato volumi di queste iuris allegazioni, ecco, comparse. Poi si fa tutta la storia di queste proprietà. L'unica cosa è di incitarvi, dopo che vi siete riposati convenientemente, di passare a questo secondo, direi, stadio, recuperando anche, non so, fondi d'archivio, tutti gli archivi delle famiglie, delle comunità se ci sono, ma anche tutti gli scritti. Naturalmente è un'opera colossale, ma Milano è Gran Milano, il Duomo di Milano dura secoli, e si potrebbero scrivere decine e decine di volumi su queste cose. Grazie. Io proseguo in questo discorso dal momento che questo incontro, oltre che essere, come dire, un discorso sulle modalità usate, credo che sia anche indicazione di chi sta lavorando sullo stesso argomento e cerca di sentire per non prendere abbagli successivi. Ci sono alcuni aspetti che vorrei appunto puntualizzare per un catasto che sto esaminando in questo momento, che riguarda l'ambiente trentino, l'ambiente roveretano in particolare, zona di piccola proprietà contadini, almeno pare, che ho avviato anche con le stesse modalità descritte appunto in calcolatore elettronico, eccetera. Ora, i tre problemi che pongo sono parzialmente gli stessi, ma con un'ottica diversa che poneva il dottor Magistri. Le categorie sociali. Il problema delle categorie sociali, anche io ho diviso, certo, ho fatto scomparire gli incerti perché gli incerti mi creavano più problemi di quanto non me ne risolvessero. E il problema fondamentale, perché le persone giuridiche sono chiare, le persone non fisiche, il problema fondamentale che riguardava i nobili e gli altri, e i non nobili, diciamo, gli altri. Ora, io mi sono attenuto per esempio al criterio formale, dal momento che questa era una piccola comunità, quindi tutti gli elementi ci sono, le genealogie ci sono, eccetera, il criterio formale, il diploma di nobiltà è stato per me l'elemento discriminante dell'appartenenza o meno a questo tipo di categorie, dei singoli e della famiglia, insomma, no? Nell'ambito però degli altri, obiettivamente ho trovato quella difficoltà di cui accennava appunto il dottor Maini. Una difficoltà che lo stesso catasto mi sollecitava a risolvere, nel senso che moltissime persone erano indicate come signori, oppure molte persone, io ho il diploma di stemma e non il diploma di nobiltà, e su questo piano la questione diventava un po' difficile, perché se l'attenzione è all'utilizzo della proprietà, al modo di utilizzo della proprietà, cioè se il nobile utilizza la proprietà in maniera diversa dall'altro, cioè dal contadino, dal piccolo proprietario, eccetera, eccetera, o dal medio proprietario borghese, mercante, che sia, ecco, questa categoria di persone che apparivano in catasto come signore, come gentiluomo, come che so io, con i che nelle genealogie io trovavo come titolari di diploma di stemma, che appartenevano quindi all'ambiente gentilizio, diciamo così, della città di Rovereto, e mi era così difficile metterli negli altri tucumi. E ho creato una categoria che dopo vari parlamentari qui con degli amici ho chiamato signori non nobili. Ecco, signori non nobili rispettando la dizione del catasto, ma sottolineando che non erano appunto, che rappresenta una quota abbastanza, non molto ampia, ma abbastanza significativa. E questo è un primo punto che forse vale la pena sciogliere anche con un criterio magari che renda comparabili i vari catasti tra di loro, in maniera che queste cose possano essere poi successivamente indicate. La seconda cosa è un pochettino più complessa, che è questa. Le classi di ambienza del partito, soprattutto per quanto riguarda non tanto la grandissima proprietà, ma per quanto riguarda la proprietà piccola o piccolamente proprietà. Io ho la impressione che ci sia anche un problema relativo alla redditività del terreno. Voglio dire, una cosa è avere una proprietà di 5-10 ettari in montagna, per esempio, e una cosa è avere una proprietà di 5-10 ettari da Pianura in Rigo. In termini di reddito, e al limite se noi vogliamo andare a vedere l'autoconsumo del contadino, tutte queste cose che naturalmente sono connesse alla piccola proprietà contadina, mi fa differenza a un certo punto usare un criterio di un tipo, cioè oltre da un quarto di ettaro ai 3 ettari, dai 3 ettari, 5 ettari, mi fa differenza, per esempio, nella pianura padana, mi fa differenza calcolarlo qui nell'ambiente trentino, voglio dire, ma anche nell'alta pianura asciutta oppure nella montagna, soprattutto nella montagna lombarda. Non so se se ne viene fuori, perché il problema della redditività dei terreni è un problema spinosissimo, però è indubbiamente un grosso limite, nel senso che ciò che consente la vita familiare della masseria in un ambiente non lo consente in un altro, eppure lo stesso appezzamento di terreno è calcolato nell'ambito di quella cella. O ampliare l'estensione sulla base di una possibile compenetrazione dei due elementi, produttività e estensione, oppure appunto l'arbitrio di scegliere una definizione che vada bene soltanto per quella piccola. Terzo, soprattutto per la piccola media proprietà, il problema delle colture miste. Noi qui abbiamo visto soltanto un aspetto, la ripa boscata e bosco, va bene. Ma ripa e bosco, per esempio, è un'altra cosa, voglio dire. Noi abbiamo, per esempio, aratorio vitato e aratorio e vitato. Quando non si hanno le proporzioni, qui il problema è che rimane qui. Voglio dire, nel caso trentino, per essere proprio all'estremo limite, certe volte nella descrizione della policoltura del maso, ci sono tutte in una sola partita ci sono tutte gli utilizzi del terreno, aratorio, vitato, boschivo, parteggerino, sassoso, eccetera, eccetera, e quindi sì, con una, come dire, un calcolo. D'altra parte, se l'estimatore fosse andato lì a misurare, doveva fare una quantità di pezzettini, perché era l'organizzazione, diciamo così, della piccola proprietà contadina che faceva sì che questo diventasse un utilizzo, come dire, molteplice, complesso, e quindi su questo piano probabilmente il riallargare di nuovo le categorie diventa una grossa necessità. Solo questi per ora. Grazie. Volevo chiedere due domande di chiarimento. Quando avete preso in considerazione le zone agrarie sulla base del catasto 1910-1911, come vi siete regolati nella definizione, nella sistemazione delle comunità, visto e considerato che nelle zone agrarie così come sono formulate nel catasto 1911 ci sono delle comunità o non ci sono delle comunità che invece apparivano nel catasto precedente? Il secondo problema invece riguarda l'eventualità di un incrocio, dell'utilità di un incrocio tra classi di ampiezza e gruppi sociali. Cioè, non so se voi avete affrontato questo tipo di calcolo, perché mi pare particolarmente utile, mi pare anche un calcolo che dia modo di valutare meglio le tendenze che possono uscire dai dati che hanno quei limiti che lei ha detto. Io le chiedo ancora se... Prego, non so se... Se lei dice il suo nome così... Io non la conosco, ma forse poi... Ma io lavoro in un settore urbanistico e te ne chiedevo qualcosa. Sì, infatti. Siccome il problema che mi interessa è quello di poter stabilire dei parametri comuni e stabilire delle linee di evoluzione all'interno della società agraria in relazione con la struttura urbana, essendo presenti nel Trentino in situazioni di estimi del 1400-1500 carini, il Teresiano 1780, uno del 1860, poi il tratto italiano, i sistemi di valutazione, di censimento e di sia di stima di superfici che di stima di tassazione è molto simile, perché risente probabilmente un'impronta, io sentivo nella sua relazione molti termini che si trovano nel nord del Tono, nel 3-400, analogie di situazioni agrarie, anche di sistemi concettuali dentro il calabrese. Probabilmente c'è una matrice comune che unisce queste zone. Per rendere omogenee queste interpretazioni delle costruzioni è necessario probabilmente analizzare il catasto che state esaminando voi, tenendo presente anche gli altri catasti. Perché se voi fissate delle classi, cioè quello che mi interessa è se vi siete posti. Se fissando delle classi di valutazione che siano interne al catasto, si tratta di una meccanizzazione del catasto, cioè di una cittadinizzazione del catasto che lo rende facilmente agibile. Però per rendere questo parametrato e confrontarsi con gli altri, è necessario stabilire delle categorie che siano tendenzialmente molto meno riconducibili a dei criteri unitari. Vi siete posti questo problema? Come l'avete affrontato? Se mi sapete dire qualcosa su questo articolo. Sì, grazie. Posso continuare io su cui ti aspetto con angoscia. Senti, allora parliamo dopo così, sì. Parliamo anche dei risultati, se è possibile, oppure no, i risultati se permettete non per giocare a no, per l'amor del cielo, prendere la cena più perché teniamo distinte e si fa stasera, cioè vediamo come si muove la cosa. Io non allora io tiro la domanda, l'avevo fatta anche perché domani non c'era. Ah, mi dispiace, però ma non è detto che entro stasera non riusciamo, anche almeno io non riesco, forse Bianchi no di sicuro, ma io dovrei riuscire. Ma me interessava in modo particolare come era distribuita. Beh, tu vuoi sapere come sono le cose. Calma e sangue freddo. E ci arriviamo, sì. Poi su quell'altra domanda che va oltre insomma, il problema delle comuni linee, sì. Cioè sul fatto che oltre i 40 ettari forse è possibile orientarsi, sì. E non mi pare che hai già risposto prima. Cioè diciamo che c'è meno dispersione, c'è più facilità di lavoro, sì, certo. Sì. L'unica domanda che hai visto. No, non voglio adesso una protezione, sono giù per tenere l'ambiente un po'. No, niente, cioè questi i nodi sono stati individuati appunto come, cioè in base nel catastro è sempre indicato il titolo per questo, oppure il don, cioè i certo. Due criteri sono il titolo e il don. Certamente. Quindi il patriziato. Cioè, perché dopo le note aveva chiesto se c'erano degli elenchi, quindi immagino che poi non so che avete fatto delle verifiche. E certamente che fanno le verifiche, ma senza possibilità di trovare gli riscontri. È questo che mette in grossa difficoltà. Quindi, cioè, non questo, il patrimonio dei cittadini, se non era una possibilità di come don Giovanni Caimi, poniamo, non è Giovanni Caimi per gli altri. Sì, però abbiamo una non dico una certezza, rispondo subito perché la cosa mi sta... Tanto premetto questo, che quando penso alla pubblicazione di queste cose qui, almeno per la parte che mi compete, ma anche Bianchi, sono fortemente tentato di lasciare fuori quest'ultimo punto, cioè quello della distribuzione, lasciarlo fuori per adesso naturalmente, dato il suo forte grado di provvisorietà. Siccome la corporazione degli studiosi è notoriamente animata da grandi sentimenti di simpatia reciproca, insomma, no? Voglio dire che come uno pubblica una cosa, c'è subito chi scrive unicamente per dire che ha sbagliato tutto, insomma, Ora, non volendo quindi offrire possibilità di copia al prossimo, no, ma anche per non contribuire alla confusione invece che alla chiarezza, che l'obiettivo è la chiarezza. Non nascondo che quando ragioniamo tra di noi di queste cose qui, siamo molto tentati di accantonarle, proprio per a meno di mettersi in una prospettiva che poi dirò, che forse chiarisce un pochettino meglio i limiti, ma anche il significato del lavoro, insomma, no? Ma forse conviene farlo subito, non vorrei con questo togliere altri... Cioè io vorrei che fosse chiara una cosa, io in questa posizione qui, io e i miei amici qui con cui abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare, noi ci sentiamo storici economici, modesti quindi, ma produttori di certi risultati da mettere a disposizione degli storici generali, di tutti coloro che vogliono interpretare queste cose. Io credo che il nostro mestiere consista nel far bene questo tipo di rilevazione, questo tipo di valutazione quantitativa, segnalando anche i limiti proprio del nostro lavoro, no, noi vedendoli, diciamo, ben consapevoli che altri devono aggiungere, insomma. Ecco, io credo, adesso qui sono un po' intimorito dalla presenza del professor De Maddalena, se fa, no, perché non ho mai ascoltato, stavo dicendo che parlo e sento di assumere la responsabilità che viene da un mestiere che è ben consapevole dei suoi limiti e della sua, vuol dire, delimitazione. Io faccio lo storico economico dei mestieri, capisco che invece chi guarda le cose con più cultura della mia, con più capacità delle mie, soprattutto da una... No, ma non sto pensando a lei, è più generale. Inevitabilmente dà degli apporti, vede aspetti, insomma, arricchisce. Quindi il nostro, in fondo... Ecco, se lo si legge in questi termini qui, forse cadono anche alcune preoccupazioni giuste che pure sono venute fuori, che riprendiamo poi puntualmente perché meritano qualche riflessione. Però in fondo qui che cosa si è voluto fare? Si è detto, vabbè, lì c'è questo materiale, ci sono questi dati, e questi dati con un certo tipo di trattamento, carico di ambiguità, di limiti, eccetera, eccetera, può o non può dare una traccia, come dire, su alcune tendenze, su alcune grandezze proprio prese... Secondo me può, se uno ha chiaro questo limite qui, dopo su questo, dopo cava tutto quel che vuole, aggiunge, modifica, cioè, è come di un disegno di cui si tracciano alcuni contorni essenziali, poi dopo quello che deve pitturare si pittura dentro, insomma, e mette tutte le altre cose che vanno messe. Ecco, in questo senso io ho ben chiaro, insomma, e l'ho detto all'inizio, che cosa può dare, che cosa non può dare. D'altra parte però, adesso... per essere molto esplicito, di fronte a una cosa così uno può dire no, non ne faccio niente perché ci sono troppi rischi, dopo mi lapidano e vabbè, insomma, pur con tutte le cautele, tutti forse, a me sembra che questa cosa non si può non mettere sul tappeto, insomma, non si può ponere. In fondo il pugliese, chiedo scusa, facendo una semplice classificazione, cioè vuol dire lavorando per campione, ha messo insieme un lavoro in cui ha dato queste cose qui, ed è dal 1924 che tutti scrivono le stesse cose e tutti dicono che la proprietà non parli di distribuire in un certo modo. Allora abbiate pazienza, uno con un minimo di apporto un po' più sofisticato vorrà dire che invece di durare dal 24 fino al 79, fino all'80, insomma, che è un tempo piuttosto lungo, durerà 10 anni soltanto, ma almeno un passo avanti l'ha fatto fare. Ecco, se si ammette tutto questo. No, è chiaro in quel punto, cioè, chiedo scusa se sono un po' scolastico, ma è troppo importante quel materiale, è troppo interessante quello che può dire se uno sta in questi limiti precisi, che poi lasciano, sollevano anche tutti quei problemi. No? Io l'ho detto prima, bisogna tornare poi con altre ottiche, con altri documenti, con altri tipi di ricerca. Ecco. Magari per smentire tutto, io spero di no, insomma, no, non è detto, ecco. Ti chiedo scusa, non ho approfittato come al solito volgarmente per... No, io ho un'altra domanda che sì. Posso fare la rete, non so perché, comunque non ne so nulla, cioè solo guardate un po'. I 45 quesiti non servono I 45 quesiti, le risposte ai 45 quesiti, sì. Se ci fosse la Manzucchelli probabilmente... Sicura, ma abbiamo utilizzati anch'io, anche i Moioli, credo. Vabbè, comunque, adesso diremo. Ho visto... Mazzolini. Sì, c'era prima il professor Zitolini. No, no, stesso. Prego. No, volevo sapere questo. Visto che lei dice che mette a disposizione uno strumento, mi chiedo il motivo per il quale lei non abbia proceduto a una trascrizione a livello di computer, forse più filologica, e cioè non abbia anche inserito tutti i tipi di cultura e ne abbia proceduto alla agglomerazione o raggruppamenti dei vari tipi di cultura prima, mentre la cosa che poteva benissimo fare il computer se le metteva da 001 a 365, cosa utile e per lo storico della lingua che voglia vedere quante volte un determinato, o cosa utile anche per lo storico della geografia che voglia sapere la riva boscosa quante volte appare. Guardi, ho una risposta volgarissima, e la risposta è questa, che le cosiddette ore macchina del calcolatore hanno un costo in cui i sottoposti preventivi successivi sono arrivato a questo perché si sono arrabbiati, insomma, quindi dovevano tirare fuori i soldi, che sarebbe il centro di calcolo dell'Università Cattolica, quando noi gli abbiamo... Ma non credo che in questo... La macchina deve lavorare, insomma. Sì, ma in questo lei praticamente aveva invece di 36, cioè aveva una colonnina in più, tutto lì. Lei sa cosa vuol dire la perforazione della scheda? E aggiungerei anche un'altra cosa, i rischi di errore che aumentano notevolmente, questo che si calcola con delle precisità. Ma io direi sostanzialmente i costi e sostanzialmente il desiderio di arrivare a cose come dire, un po' sintetiche, ecco, relativamente. No, quello che dice lei è valido, cioè, voglio dire com'è. Che sulla, io le sono già calcolato quanti dati abbiamo immesso, quanti milioni di dati abbiamo. Vabbè, così butto 40 milioni di dati, può gestire. Cioè tra la squadra, no? Cioè tutti gli elementi, insomma. Però quelli 80. 100.000 proprietari moltiplicati per tutta questa sfinza di dati, qui compresi, non so se vedo l'idea. Sì, sì, da un numero. Vediamoci una cosa, lei ha ragione, nel senso che avremmo avuto ben altri risultati. Devo dire che è stato necessario un contenimento insomma delle nostre esigenze. Ma io vorrei dire una cosa, e sono completamente d'accordo con Marco Giusti, alla luce di un'altra ricerca, di tutt'altro tipo, che stiamo conducendo a Bocconi, ed è questa, ma per rispondere in diretta non è quello che la Mazzolini ha in quel momento fatto. Noi stiamo tentando, direi a carattere significativo, che proporre poi ad altre università, con Schumann, il nostro laureato, di mettere a disposizione di tutti una analisi, uno spoglio minuziosissimo di una rivista storica, in modo che si possa arrivare a decifrare nella rivista, dal nome dell'autore al nome del recensore, alle volte in cui Federico di Svegno è stato nominato, a tutti i titoli, a tutto quello che una rivista può dare, in modo da offrire poi allo studioso le infinite possibilità di accostamento tra le diverse decine, per di migliaia di variabili che una rivista offre. Devo dire questo povero Cristo, guarda, scritto così, da buon milanese, ha lavorato 2 anni e mezzo ed è riuscito a spogliare, facendo lavorare il nostro calcolatore nei limiti, eccetera, ma adesso poi non intervengo in particolare, per svariato tempo, è riuscito a spogliare 5 annate del Viertel, Jahrschrift für Soziale und Wirtschaftliche. 5 annate, dico 5 annate dal 1901 al 1900, dall'inizio dalla serie che abbiamo detto Bocconi, la seconda serie. Quello che è uscito è una cosa prodigiosa, stupenda. Se noi in tutta Italia potessimo su tutte le riviste storiche avere a disposizione la massa di dati disponibile per cui oggi qualsiasi riferimento, qualsiasi incrocio, qualsiasi abbinamento, però ecco, io vorrei far vedere, spero, ho intenzione di fare una riunione di storici per vedere i risultati di questa ricerca, perché sono comunque estremamente interessanti, ma mi rendo conto di, diciamo, delle opportunità di utilizzo frantumato al minimo così come lo propone, e d'altra parte le difficoltà operative. Seconda questione, mi rifaccio all'altro amico che è intervenuto prima. E certo, qui bisogna stare attento a quello, questa sciocchezza che Sergio dice cultura, non cultura, eccetera, rivolgendo sia vecchi immagini, cosa vuol dire io, lo facendo l'età. No, non c'entra, però c'è un problema che effettivamente è vero. Tutto il lavoro che è stato fatto qui mi sembra comunque importantissimo come base di ricerche future, per questo l'hai detto. Quanto al fatto che un catasto come quello teresiano sia in sé il punto di sfocio, di sbocco, di modi di pensare, di modi di operare anche precedentemente nell'ambito delle catastature o delle stimature, ma nessuno può negare, evidentemente il poi è figlio del prima, quindi è chiaro che c'è tutta un'altra fila. D'altro canto però io sono estremamente, e questo credo da storico puro, non storico economico, ma da storico puro, io sarei estremamente prudente in questa pur genetica generalizzazione di un prima e di un poi, di una paternità del prima nei confronti del poi per quanto concerne un modus di presentarsi di queste fonti. Perché, per esempio, proprio nel caso specifico qui del catasto, mi è occorso di mettere a confronto un frammento del catasto di Carlo V per Vigevano, che è rimasto completo, con la parte vigevanasca che voi credo non abbiate tra l'altro utilizzata, certo. Perché è fuori dai confini del 48, pre-48, e fino. Beh, guardi, quello che lei dice, il prima e il poi che si assomigliano in modo estremamente vario. Ci sono certe sfumature, si capisce che indubbiamente gli organizzatori del catasto teresiano avevano anche in mente ciò che era stato fatto da Carlo V, ma guardi che il confronto, cioè bisogna smembrare l'uno, smembrare l'altro e probabilmente ricostruire attraverso dei filoni diversi in modo da ottenere due cose che sono tra di loro confrontabili, perché di per sé stesso lei sente degli echi, delle risonanze, ma il confronto non lo può fare. Se lo facesse farebbe una cosa veramente storicamente assolutamente inaccettabile, anche se l'uno e l'altro parlano di classi, così che di classi, insomma certo, di classi di ampiezza, di tipi di cultura. Ma, per esempio, mi sono reso conto di una cosa, che come nel Cinquecento si intendeva l'aratorio imitato, non lo si intendeva più nel Settecento, usando la stessa parola. È una cosa ben diversa. Per esempio il fatto di maritare l'olmo o la cima alta, come si dice, l'albero da cima alla vite nel Settecento, non è lo stesso discorso, e qui Giorgio Chitolini forse lo potrà dire se l'ha trovato, nel 400. Cioè la terminologia può essere la stessa in apparenza, in superficie, ma è il contenuto che è diverso, e questo lo si parla da altre fonti. Ecco perché io sarei estremamente prudente su questo. Non che con questo io voglia arrivare, non so, alle teorie del Döbli sul fatto che ogni dato storico è irripetibile, che ogni fatto storico, quindi le confronti non si possono fare. Però non vorrei cadere quello che oggi tante volte mi sembra di osservare in chi fa ricerche storiche, ma è molto, direi, sollecitato da esigenze sociologiche e così via, di generalizzare un po' prioristicamente e anzi ritrovare proprio certe generalizzazioni nel contesto della documentazione. Questo è un po' la mia paura, la mia preoccupazione. Ecco, questo non lo sentirei proprio dal momento che ho fatto questo confronto diretto, forse tu non lo sapevi neanche, insomma, non mi è. Cioè quello che Brodel mi direbbe, sarebbe felicissimo nella lombra di stabilire com'era a metà del 500 e com'era a metà del 750, dal momento che teoricamente io dispongo di due fonti uguali, quando devo dire, dovrei a rianalizzare tutto e costruirmi due altri, due altre corpora da mettere a confronto. Questo. questo come preoccupazione generale. Ecco perché capisco le forti limitazioni che lui si è sentito da storico, non da storico economico, da storico soltanto nell'indicare. Il che non significa che tu non abbia messo a disposizione degli storici materiali, mi sembra preziosissimo, del resto vai stesso riconosce, appunto per quelle interpretazioni. Non volevo fare una critica. No, certo, per quelle interpretazioni che si potranno fare. Cioè, prendendo altre fonti, abbinando, adesso che diceva Gao, apprezzo la scelta, però insomma. Una cosa, forse è stata detta, sono arrivato tardi, mi scuso se. Cioè, per quella, in una tesi che avevo dato sulla via della Valpugna, era saltato fuori una certa discrepanza di dati fra nel Settecento, fra le rilevazioni del 1530 e quelle di 2020. Sì. Sì, cosa dico? 1703 e quelle di 20-25 anni successivi, certo, insomma. Certo. Talmente forti che non. Sì, questo facciamo, preoccupa anche a me, sicuramente. Ecco, anch'io pensare a un normale passaggio di. A un ritmo fisiologico di passaggio di proprietà, ma a dei criteri diversi di valutazione, soprattutto per quello che riguarda le proprietà indivise, zona di montagna, quindi. Ecco, la differenza era talmente grande che appunto ci siamo trovati di fronte a un problema di, cioè, se erano giusti gli uni forse non erano giusti gli altri, perché non si poteva pensare che nel giro di 20 anni fosse successo un così generale ribaltamento. Ecco, non so se avete avuto esperienza di altri fatti analoghi o si possono risolvere. Per la montagna, per la montagna. Soprattutto per la montagna. Io sì, no. Posso la parola per sì, sì, quanto a questo, la mia domanda poi è un'altra, ma quanto a questo, sì, probabilmente bisogna tener conto appunto, oltre che dei passaggi di proprietà, proprio degli errori che furono corretti dalla seconda giunta, o degli errori che furono introdotti, per così dire. Perché, per esempio, è noto che dopo la. Nel 58-50, quel momento di passaggio 57-58 tra lo scioglimento della giunta Neri e la, diciamo la, l'entrata, l'arrivo di Firmin a Milano che poi riprese in mano la situazione, in quel punto lì successero cose strane, cioè ci fu una delegazione provvisionale interina che cominciò a fare sottrazioni, riduzioni d'estimo principalmente alle grandi famiglie milanesi per centinaia di migliaia di scudi. Questi per esempio sono fatti, poi furono successivamente di nuovo. Però questo gioca sulla colonna, come dire, dei valori, non sulla colonna sì, del ecco, fisico. Ma poi la mia domanda poi volevo arrivare proprio a questo. Cioè, ecco, qui l'aveva già detto un po' Varini, io non capisco bene questo pessimismo sulla possibilità di cioè, in definitiva, qui si tratta di ricostruire il processo, no, attraverso il quale si è arrivati al conferimento di un certo valore di stima, che siamo d'accordissimo, non è un valore di mercato, su questo non c'è alcun dubbio. Siamo anche d'accordo che è un valore che può valere solo per quel momento, per quegli anni in cui fu fatto e non per dopo, perché poi un terreno può essere diventato molto più produttivo in seguito, un altro al contrario, quindi 20 anni dopo questo non funziona più. Però se ci limitiamo al momento della rilevazione e teniamo conto di questo processo di attribuzione, cioè rendita netta, defalcata, con tutte le deduzioni, eccetera, non mi pare, cioè, per quello che io so, probabilmente è ignoranza mia, non mi pare che sia talmente così improprio comparare dei valori anche da comunità a comunità. Cioè, il principio perlomeno era questo, che ognuno doveva pagare in rapporto, tante volte affermato e riaffermato, no? L'uguaglianza consisteva nel fatto che ognuno doveva pagare in proporzione di quello che aveva valutato secondo criteri uniformi. Ecco, io volevo chiedere quali sono gli elementi che portano a ritenere che questo assolutamente non si possa fare. Grazie. Io ringrazio per l'osservazione iniziale, professor Zaninelli, quando ha detto che da un catastro di questo tipo si possono ricavare solo poche cose per avanti, ma poche. E concordo con lui che è difficile poi da un documento che io chiamerei con accettabile arrivare a delle generalizzazioni sul sociale. E per quel poco che conosco, io ho visto alcuni di questi catasti di Piemonte, quelli che col 48 furono versati allo Stato. Una prima domanda. L'anagrafe si dice non è possibile perché abbiamo il problema delle omonimie, quindi passando da un comune all'altro. Però si è detto, se ho capito bene, che alcuni tentativi si faranno sulle ditte. Non esisteranno dei casi di ditte lombarde che hanno delle proprietà in quei territori che sono passati? Certo. Quindi ho l'impressione che anche questo complica ulteriormente, cioè questo non ci sono dubbi che ci siano le bande. Ecco, e poi l'argomento che per me è più importante di tutti è quello dell'estimo. E vorrei che mi confortasse con il signor Daniele, se ho capito bene il motivo più opponente all'uso delle. Lei dice che gli agrimensori all'interno delle singole comunità avrebbero dato delle valutazioni all'interno delle comunità semplicemente per stabilire le classi comunali. Questo vuol dire che tra due comuni limitrofi vi possono essere uno stesso numero di classi ma con valutazioni tutte differenti. Certo. Ecco, secondo me questo non è ancora un motivo che impedisce di usare l'est. Perché, mi corregga se sbaglio, se l'imposta fondiaria in Lombardia era ripartita per contingenti di province e se poi all'interno della provincia è ripartita per contingenti di comunità, dovrebbe esserci un parametro noto mediante il quale si stabilisce il contingente di comunità di valutazione. Se noi conosciamo questo, dovremmo avere il coefficiente di rivalutazione dell'estimo di ogni singola comunità secondo parametri generali. Se posso a quel punto utilizzare l'estimo. Mi pare che non i nuovi che... contingenti li hanno proprio calcolati sulla base delle stime. Sì, vabbè, ma se noi conosciamo i coefficienti, no, andiamo a fare il calcolo. No, non è una cosa questa qui da sottovalutare, potrebbe essere la chiave del discorso. Certo. Aggiungendo su questo piano, nel catasto di Carlo V la valutazione dei parametri fu fatta in maniera molto generica sulla base dei contratti di vendita e dei contratti di affitto di locazione nel triennio 43-45. È una cosa analoga anche per il catasto di è uno degli elementi della stima. Uno degli elementi. Scusa perché non avevo finito, la mia osservazione deriva dal fatto che noi abbiamo in Piemonte lo stesso metodo identico che viene attuato e applicato dal 31. Le cose sono perfettamente uguali, ma alla fine abbiamo dei parametri. Sì, certo. Io poi in realtà non ho poi il catasto per il singolo comune, quindi non posso fare quel lavoro. Io non ho il catasto. Però l'estimo del comune. Va bene, insomma, se sono delle cose interessanti. Lei voleva, scusi Coppola, lei sta. Era per chiedere se questa cosa, sì, la risposta è già data. Siamo qui Io non sono d'accordo quando dice che il catasto è solamente un documento contabile. Per esempio dal catasto teresiano di Mantova è possibile rilevare lo stato giuridico della proprietà, in quanto che per ogni particella c'è scritto se è allodiale oppure se è un'ozia, con l'indicazione dell'ente a cui è assoggettato, per cui è possibile, per esempio le vicende dei terziari di San Benedetto, cioè quei contadini che a un certo titolo coltivavano la terra da un certo siamo terzo. Un fatto notarile o contabile se ci sono i numeri o Beh, insomma, lì andiamo a finire sui contratti agrari, che è un tipo di contratto agrario che poi dà a tutta la zona di San Benedetto una certa struttura agraria, eccetera, eccetera, un certo paesaggio. E solo che il professore faceva riferimento a un catasto esportato dallo Stato di Milano, portato nel senso passato sulla questa base qui e non su quella poi perfezionata, ecco, a cui fa riferimento, che sono cose diverse, insomma, non confrontabili. Lo scudato a cosa si riferisce? Al valore capitale. Al valore capitale, che allora quella è una base che deve essere, appunto, è la base su cui poi imporre la tassazione. Sì, ma il valore capitale è stabilito sulla base della valutazione di produttività. La valutazione di produttività è fatta sulla base comunale. E con giudizio personale della grande certo, no, no, no, sì, però chiedo scusa, io sto parlando di quello di cui voglio parlare io. Diciamo, certo, ci siano altre situazioni, non le so. No, non è questo il punto. È per cercare di capire. Certo, certo. Sono state fatte le squadre attraverso le stime, eccetera, eccetera, in modo oculato. Poi soprattutto, ma mi sembra che ci sia anche... È la fortuna dello studioso, perché uno si mette su una anche cosa più ordinata. Nel catasto appunto milanese, attraverso la pubblicità di tutte le stime, perché c'è, almeno io ho letto il suo libro dove parla del catasto dal 1718. Ma è proprio la pubblicità delle stime che conferma questo discorso qui. La giunta ritiene indispensabile pubblicare le stime comunità per comunità e chiama i possidenti di ogni comunità a ritenere se all'interno della comunità c'è giustizia, non con riferimento tra la propria e un'altra comunità. Esatto. Questa è la prova che non c'è confrontabilità. Il sistema è evidente che tra l'anno 1698. Sì, ma è andata avanti così perché avevano dei problemi grossi a stabilire dei criteri. E... Ma no, ma infatti anche per Mantovano le squadre sono sempre stabilite nell'ambito di ogni comune. È evidente perché ci sono differenze. Questa è a favore delle zone agrarie, eh? Questo è a favore delle zone agrarie, cioè ci sono delle differenze di rendimento dei terreni accertati sulla terra. Nelle zone agrarie c'è anche lo Stato. Sì, sì, beh, certamente. Con tutta la sua storia. Coppola chiede ancora la parola. Una cosa che mi era scappato dalle domande, ma è per me molto importante. E, la collocazione del livello. Sì. Nuda proprietà e livello. Nel catasto telesiano di Rovereto io trovo una cosa molto strana. Cioè, il livello, è, o meglio, il terreno è intestato alla persona, all'utilista, non a livellario. A livellario, non a livellante. Con la fianco paga anno, anno livello di A il livellante. A volte c'è, a volte non c'è. Voglio dire. A questo punto il discorso è complicato, no? Perché dal punto di vista giuridico è chiaro che la differenza è molta. Dal punto di vista agrario, dal momento che pare che questo livello rappresenti una specie di onere, insomma, che tutto sommato si perpetua, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al 1854, quando vengono riscattati, di fatto rappresentano un elemento che conferma, come dire, l'utilista come obiettivo di fatto, sostanziale, proprietà. Ecco, io naturalmente ho tagliato la testa attorno, visto che non aveva la completezza degli elementi a destra, l'ho messo tutto a sinistra, voglio dire che a questo punto ho ricostruito la proprietà tenendo conto della proprietà piena e tenendo conto dei livelli, ma il problema mi crea qualche imbarazzo dal punto di vista proprio della differenza giuridica che c'è tra le due figure. Sì, credo che sia un problema suo, però, no, fortunatamente. Anche... No, anch'io. L'ho avuto. Io Io credo che lì il problema, sull'area tu, no? Cioè, è che non c'è rapporto, mi sembra, chiedo conferma, non c'è rapporto immediato fra, non c'è rapporto diretto, fra carico fiscale e situazione. Non c'è una, come si dice, una un'eguaglianza, una base perequata. Perché questo carico fiscale è ormai un dato storico, cioè si è arrivati a una certa distribuzione delle imposte, provincia per provincia e comunità per comunità, sulla base di contrattazioni, cioè della forza delle diverse comunità, credo. Cioè, vuol dire, quando tutto il problema nel periodo delle riforme, Milano ci sfrucce, cioè, Milano paga molto meno di noi, cremonese e così via, queste lamentele poi vengono composte non mi sembra però sulla base di dati di giustizia, ma sulla base di dati di convenienza, cioè facciamo uno sconto. No, sulla base del catasto, ma quello che parliamo dopo dell'imposta fondiaria, se permettete. No, anzi, il catasto è servito tutto per togliere tutto questo. Appunto, l'imposta è un altro problema. Certo. No, che la cosa rischia un momentino. Sulle decine avete. No, è rilevato. E ci sono altre domande di carattere generale? Cosa vogliamo fare? Forse una sola. Prego, prego, una sola, no, ma anche qui solamente per chi, e qui forse potrebbe aiutarmi Mozzarelli. In quegli altri che voi ponete al di là dei nobili, gli altri, non nobili, insomma, sì. E poi non so neanche chi sono i non nobili e i non ecclesiastici, insomma, in un certo senso. No? Certo. Sono i non nobili e i non ecclesiastici. Ecco, lì tutta quella distinzione a cui aveva l'uso, per esempio, non so se chi è che sono venuto, se va in mio o cavolo, i signori, eccetera. Questo voi non l'avete fatto di benissimo, ma come indicazione per noi se volessimo utilizzare e partire da queste cose. Il problema non potrebbe essere risolto sul piano come ha risolto Cattini per una zona emiliana, la zona modenese. Vedere la partecipazione al potere di questi altri e distinguerli quindi sulla base della a livello comunitario, voglio dire di comunità in comunità. Quindi il problema, per esempio, i signori erano praticamente coloro che si avvicendavano insieme anche i nobili, insieme agli altri al potere. Laddove per esempio il messere, ecco, non arrivava al potere, ma era una. Non so, è possibile per Milano, questo lo chiedo. Cioè se si potrà domani frammentare un po' questi altri, prendendo come asse di riferimento la partecipazione al potere comunitario. O no? O non è possibile. Ma questo che è quello di Mozzarelli. Non so Mozzarelli cosa pensi, io ritengo che sia cosa un po' difficile perché. No, se si vuole giungere a una. No, questo teoricamente, non implica la vostra collocamento. Chiarito questo. Certo. Qui ci sono dei numeri e tu pretendi dei nomi invece. Qui ci sono dei numeri. Però sono di categorie sociali. Sì, però fondamentalmente qui io ho dei numeri e non ho Ma siccome vuoi vedere anche voi anche i nomi. Sì, abbiamo anche i nomi, ma è proprio quando confrontiamo i numeri con i nomi che ci troviamo in difficoltà. Però la tua domanda merita attenzione, nel senso che. Con l'uso di altre fonti, io non lo so, quindi non sono uno studioso di passando attraverso le varie grammatiche successive, perché anche se per fine 500, non so io. Comunque è un lavoro da costruire sopra. Sì, da lì non si potrebbe già pensare, posto che avete l'elenco alfabetico di tutti. Questo sì, questo l'abbiamo. Perché comunque sono molto diversi anche i sistemi di governo di ogni comunità. Gli anziani. Cioè appunto nei 45 paesi, per esempio, viene fuori bene che. Esistono, cioè sono quelli in cui ci sono delle forme più formalizzate, cioè di famiglie partecipanti, altre invece è un consiglio generale. Non so, questo è un altro. Ecco, allora, cosa possiamo fare a questo punto? Ci sono altri che vogliono intervenire o cominciamo a tentare una prima gira di risposta? Se permettete, io chiederei a Cove di sbarazzare il terreno da quel problema sulla ripartizione, ecco, sui criteri di ripartizione dell'imposta fondiaria. In modo io che... devo dire che l'imposta fondiaria, come è noto, viene calcolata innanzitutto sulla base delle spese. Uno dice io ho bisogno di avere un gettito una certa entità ed è la mia necessità finanziaria che mi porta poi a determinare l'aliquota da imporre sul singolo scudo destino. Quindi logicamente è ritroso, dice io da questa imposta fondiaria devo ricavare 6 milioni di lire, ho a disposizione uno scutato che sarà 65 milioni di scudi e dico allora che l'imposta fondiaria è 6 milioni di lire diviso 65 milioni di scudi. Non ci sono sconti, gli sconti sono stati fatti in sede di revisione delle stime, quando gli anni prima dell'attivazione del catasto hanno portato ad una notevolissima diminuzione dello scutato dello Stato di Milano, secondo me però principalmente imputabile ai beni di seconda stazione, cioè ai beni urbani, agli immobili urbani che hanno avuto il massimo, mi pare, in percentuale di deportazione dello scutato precedente. Quindi la proprietà immobiliare cittadina, milanese in particolare, è stata quella che ha usufruito di più di questa revisione delle stime. tant'è vero che le comunità, i sindaci, i rappresentanti delle province hanno strillato a non finire su questa differenza, come sai, intorno alla valutazione precedente, alla valutazione definitiva, che avrebbe poi costituito la base di imposta fondiaria. Ma una volta stabilito la base di imponibile, insomma, il valore dello scontato generale, poi l'imposta continua ad essere ripartita sulla base di questo scontato, con un criterio che farebbe supporre l'uniformità delle stime, insomma. Perché alle singole province uno dice i 6 milioni si ripartiscono nella provincia di Milano per tanto, in quanto il suo scutato è tot milioni di scudi, si ripartisce su Cremona perché Cremona ha tanto milioni di scudi, e poi via via nella provincia si ripartisce per comunità a seconda dello scutato. Questo farebbe pensare che correttamente o non correttamente l'idea del governo è che lo scudo, che la pertica valutata uno scudo a Villa Pizzone fosse la pertica valutata a mezzo scudo da un'altra parte, cioè che i criteri di determinazione del rendimento, del reddito della singola unità di superficie fosse calcolata su una base omogenea. Era una finzione. Cioè dire, è chiaro? È una finzione. Nel 1760, era sicuramente una finzione nel 1723-25 quando... Secondo me è sempre rimasta una finzione. Cioè, se uno guarda... Non potevano far diversamente, perché il vero problema a cui volevano porre rimedio era l'ineguaglianza di contribuzione all'interno della comunità. Questo è il primo obiettivo che vogliono risolvere. Sono ben consapevoli che chi possiede in 5 comunità diverse viene tassato in modo che non è come per noi, come dire, per noi, insomma, fa per dire, insomma, ma si presume che sia fatto su una base di un imponibile valutato con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Per cui se uno possiede una casa, se uno possiede, è valutato comunque la possiede. Qui c'è il criterio della realtà, cioè il bene è valutato in quanto è lì, non in quanto è nello Stato. Sì, ma è valutato in base alla sua presunta produttività, che sia sì, lontana. Sì, ma ecco, la cosa che non si fa fatica a capire, anch'io ho fatto fatica a capirla, perché è contraria al mio modo di vedere moderno, come quello dei presenti. Lo stimatore interpella i locali, lo stimatore giudica sulla base dei prezzi ottenuti localmente, la sua base di partenza è locale, il risultato è una valutazione che dà luogo, che poi è una valutazione si dice di un terzo rispetto a quella del mercato, che dà luogo allo scutato. Perché hanno inventato lo scutato? Hanno inventato lo scutato per trovare un parametro di uguaglianza, perché dopo tutti sono valutati sulla base dello scutato. Lo scutato però altro non è che un parametro, è come la caratura del condominio, insomma. Sì, ma questo... La caratura del condominio è cosa più chiara. 45 millesimi. E tu dici, tiri fuori, la comunità è caricata di top. Cova dice, giustamente, che questo partiva da un presupposto che però io ritengo senza valore dal punto di vista agrario. Che fosse un marchingegno necessario per ripartire l'imposta, e non si può negare, perché non avevano alternative, perché l'alternativa, chiedo scusa, non era al momento della ripartizione. L'alternativa consisteva nel costruire a monte di tutto una valutazione che partisse da criteri omogenei. Allora bisognava che la giunta dicesse tutti gli aratori sono valutati 3, oppure gli aratori di squadra 1 sono 3. Non esiste questa cosa qui, cioè uno non trova nelle carte della giunta. Non trova il dibattito. Esatto, è che loro ammettono, non solo ammettono che è impossibile, ma non lo vogliono fare. No, ma è impossibile perché ti vedi. Oggi si può fare. Oggi il catasto è costruito così. È costruito su parametri unificati, scherziamo. Cioè non è che l'apertico o l'ettaro collocato in un ambiente è valutato, cioè è valutato diversamente se il suo rendimento è diverso. Allora noi ammettiamo che tutti i perticati di aratori di 2.387 comunità fossero aratori diversi fra di loro. Quindi danno una valutazione diversa. Non sempre, ma se certo, non è la produttività. Comunque, il punto è questo qui. Se si valuta dal punto di vista tributario, è certo che esistevano... E questi parametri che erano rappresentati dallo scrutato, questo è certo. Se si vuole fare un ragionamento sul piano agronomico, sul piano agricolo, sul piano, no, non può essere sposato questa, non può essere individuata questa identità, insomma. Per cui se la preoccupazione nostra è stata come è stata, quella di cercare di capire i caratteri, cioè, io devo dire che lì no, non mi sento di addentrarmi in questa cosa qui, perché si poteva anche fare questo. si poteva vedere di tutte le comunità le valutazioni, no, per le perdite. Tant'è vero che non ce l'ho qui, nel pugliese, no, non ce l'ho, nel pugliese c'è il valore, come dire, medio. E quando io dirò domani tenterò di dare, perché il calcolatore ci ha dato anche questo, ci ha dato il valore medio, va bene? Il valore medio per area, no, per area, non per comunità. E si vedono delle cose incredibili, insomma, cioè, che rendono bene la diversità dei valori, dove l'irrigo, per esempio, ha un valore elevatissimo rispetto al valore invece di altre zone, insomma. Quindi questo dice la diversità delle situazioni. Forse si poteva, ma allora era un discorso non più di caratteristiche agrarie, ma era un discorso di tecnica tributaria, che a me non interessa. Forse di prezzi. Tecnica tributaria, ripeto. Sì, tecnica di stima, in quanto quel parametro è il risultato di un certo modo di stimare. Ma c'è anche la base della produttività. Si parte anche. Guardi, io ho una modesta esperienza in campo economico. Se c'è una cosa che tuttora sfugge ed è motivo di conflitto tra la gente, è cosa vuol dire la produttività. Ed è un modo di rapportarla a dei parametri unificanti, no? Oggi in campo industriale nessuno si mette, è caduto completamente la possibilità di calcolare, come dire, la remunerazione sulla base della produttività, perché non esiste un parametro unificante per macchine uguali. Cioè, l'economista davanti a queste cose qui dice: no, abbiate pazienza, io perlomeno non so se il Maddalena è d'accordo. Sono molto cauto, ecco, sono molto cauto anche perché so il modo con il quale è stato costruito il parametro. Perché lo stimatore è andato sul posto e ha proceduto autonomamente, come se stesse solo per la comunità. Non è stato costretto, come dire, a mettere insieme... Sì, ma è dato la ricerca di valori assoluti, cioè... È dato la ricerca di valori percentuali. Quanto vende questo pezzo di terra? Sì, per arrivare a un valore percentuale. Sì, ma quando parla di valori monetari, bisogna vedere che valori di mercato ha usato, se il mercato di... Vabbè, comunque, chiedo su questa cosa qui, c'è da riflettere, io non sto dicendo in assoluto, c'è da riflettere. Io fino a ritenere, scusi, io le ho tolto la parola, lei voleva aggiungere qualcosa su questo punto qui, sì. No, io anch'io sono rimasto stupito per quella tesi che ti ho mandato, scusa, questa qui che studia le minute di stima del Pavese, della fortissima disparità dei criteri di valutazione comunità per comunità. Per cui veramente, non so, in un certo punto detraggono l'acqua dalla valutazione dell'irrigo, attribuendogli un valore che a 2 chilometri di distanza è diversissimo. E questo mi ha fatto cadere le braccia, perché io speravo di trovare un parametro appunto di valutazione, chiamiamola produttività, eccetera, ma è veramente così inficiato da questi criteri estrinseci chiaramente che e adesso si pensava di vedere se almeno ogni stimatore aveva dei suoi criteri, per cui si potesse, ma lì è molto difficile. Dico la mia opinione, poi chiudo, insomma. Ecco, io distinguerei però il fatto concreto di come ha operato lo stimatore dai criteri generali, insomma. Io sono convinto che ci siano degli errori di fatto nelle valutazioni che discendono dal grado di libertà, forse, che lo stimatore è concreto nel fare il suo mestiere, quel tanto di soggettivo che c'è, probabilmente gli orientamenti generali lasciavano molto margine alla responsabilità di ciascuno, all'arbitro di ciascuno. E questo porterebbe veramente a dire che la stessa perdita, che ha la stessa redditività, in sostanza ha un valore capitale diverso da un luogo all'altro, pur avendo lo stesso reddito. E questo derivando dal fatto che, ripeto, lo stimatore mette un tanto di suo nel determinato. Però secondo me, ragionando dal punto di vista di chi vede, insomma, il pubblico potere che stabilisce il criterio di determinazione dell'imposta, ecco, il pubblico potere ragionava come se lo stimatore fosse stato unico in tutto lo Stato, in astratto, insomma, che fosse stato lui in tutte le comunità, sulle singole appezzamenti, sulle singole particelle, e avesse valutato con un criterio omogeneo suo, quindi con una responsabilità sua e un grado di autonomia suo. Chiaro cosa voglio dire? Cioè, di fatto magari ci sono delle differenze reali, perché forse i criteri non erano sufficientemente stretti, forse perché, ripeto, erano incerti, eccetera, una certa quota di soggettività. Ecco, però il pubblico potere, secondo me, ragionava in termini di valutazione, insomma, dei fondi. Cioè, gli stessi criteri erano quelli. Poi vabbè, poi c'è questa realtà. Prego. Ah, ma io tento, dopo vi date una mano anche voi, voglio dire, aggiungete le cose che, come dire, proprio sul piano così del dialogo, non posso impegnarmi, come dire, a dare delle risposte definitive. Molte delle domande hanno suscitato quesiti, hanno rivangato dolori, insomma, no, precedenti. Dunque, De Maddalena chiede se è mutato il paesaggio, insomma, no, tale da... questo per la montagna, Bianchi dirà poi come ha proceduto. Bianchi non ha proceduto solo col criterio dell'altimetria, no? Forse non tanto pensando all'erosione, come dire, ma alla necessità di essere più vicino, insomma, alla realtà, insomma, no? del paesaggio come si presenta. Ti dirò che questo problema qui si presenta in termini forse più drammatici per la pianura quando si pensa all'irrigo, no? Cioè quello che è chiamato nel catasto del 10 piana irrigua, in parte corrisponde e in parte non corrisponde. Ecco perché io ho pensato di ricorrere a questo criterio grossolano, insomma, no? Altimetrico per la mia zona, perché forte anche della letteratura sull'argomento, insomma, si riconosce che questo è l'elemento più certo, più facilmente identificabile, che differenzia un terreno da un altro, insomma, no? Lo differenzia nel senso che permette per dire, un minimo di delineazione di aree entro le quali i valori assumono significati diversi, perché un conto che si applichino alle righe, un conto che si applichino all'asciutto, insomma. Io vorrei chiedere, non è per vorrei dire, ce n'era un altro, ecco, obiettivamente, o uno rinuncia alla zona agraria, cosa che io ritengo sbagliata. La zona agraria è nella ricostruzione di un ambiente agrario fondamentale. Questo confortato da tutta la letteratura agronomica coeva, successiva, non basta prendere in mano, che so, dai lavori di Sapieria, tutti quelli che hanno studiato la realtà agricola italiana sanno che la zona agraria è l'elemento sul quale tu organizzi, come dire, con tutti i limiti, naturalmente, soprattutto se il tempo come dire, passa e la zona si è modificata. Io non so se ce n'erano degli altri, insomma. Beh, sinceramente non è vero, ecco, non può darsi che mi sia sfuggito. Cioè, ripeto, qui l'alternativa è molto netta: o uno rinuncia alla costruzione della zona agraria, rinuncia nel senso che considera tutto il territorio di fuori, oppure, se vuole essere un minimamente attento alle diversità, tiene in qualche conto la collina rispetto alla pianura, rispetto alla zona dei fontanili, rispetto alle zone, come dire, di alluvione, insomma, ripeto, con tutti i limiti che derivano poi da rilevazioni che sono successive. Così, per l'altro problema, se si sono... No, chiudo su questo punto dicendo che io ho scelto questa strada, se qualcuno ne trova una migliore, tanto di guadagnante, insomma. Ecco, per le modificazioni di comunità, in effetti, abbiamo riscontrato questo, non sono molti i casi e abbiamo cercato di ricostruire, come dire, andando all'indietro e vedendo gli elenchi, tu sai, certo, che ci sono, sì, che sì, cosa varie date, in modo da anche qui cercare di... Ecco, perfetto. Per quel che riguarda le osservazioni, io sul catasto mantovano non ho niente da dire perché non lo conosco, come dire, accolgo questa precisazione che si tratta di un catasto che offre più dati, insomma, è più ricco. Se non altro è venuto dopo. Mi sembra che sia più preciso, infatti ogni tanto si richiama nelle carte, nel Pirò, l'esperienza del Milanese, ecco. Facciamo questo errore anche per l'intestazione. Sì, sì. Sono stati come sempre le esperienze che vengono dopo, come dire, migliorano rispetto. Certo. Quindi da questo punto di vista qui, come dire, non ho niente da dire, se non, come dire, da rilevare una cosa che è ovvia, voglio dire, i catasti successivi sono sempre più perfetti, insomma, sono sempre più attenti, insomma, a problemi che altri magari non, così come quello di Carlo VI diceva De Maddalena, è cosa diversa da quello di Carlo V per le ragioni, insomma, per lo stesso progresso di rilevazione, insomma, l'uso della tavoletta pretoriana è una cosa, l'uso della catena è un altro, insomma. L'uso della tavoletta pretoriana che permette di riprodurre su scala la mappa e l'uso invece l'abitudine di andare a spanne evidentemente segna un grandissimo progresso, no? Il fatto di pura rilevazione della superficie del terreno. Ecco, per quel che riguarda la categoria di ampiezza, qui c'è un elemento di riflessione importante. E certo, la categoria di ampiezza, intanto diciamo, la categoria di ampiezza dell'unità produttiva più che non della partita, perché è su questo che bisognerebbe ragionare. E certo che è una categoria di classificazione, che qui è stato detto, vabbè, cos'è medio per esempio? Quell'appartenenza o non appartenenza a una categoria di ampiezza media, è anche funzione, come dire, delle tecniche e del lavoro che vi viene impiegato, dalla numerosità della famiglia, cioè un podere è medio alla luce di certi criteri, insomma, no? Diventa piccolo per l'uso del trattore, il podere che è medio diventa un podere piccolo. Finché non c'è trattore è medio. Quando il trattore richiede certe ampiezze per essere conveniente aziendalmente, quel potere diventa piccolo. E quindi questo andrebbe continuamente rapportato. Però d'altra parte non si può fare a meno di ricorrere, anche qui con tutti i limiti, insomma, perché in fondo se almeno stabiliamo delle grandissime categorie, piccola ampiezza, media ampiezza, grandissima, almeno si vede la difficoltà del patrimonio che so di un tribunio, il patrimonio dell'ospedale maggiore di Milano dalla parte, il patrimonio di almeno questa possibilità bisogna darla, insomma, no? Di, ripeto, con queste limitazioni. Sulla composizione sociale della categoria altri, io qui non ho che da ripetere quello che ho detto interrompendo Mozzarelli. Noi, facendo il nostro mestiere, ci siamo preoccupati di dar dei numeri, insomma, non dare i numeri, dar dei numeri, anche se il rischio c'è stato qualche volta, di dar dei numeri con un del risultato. Quando io qui ho un elenco, come dire, anagrafico in ordine alfabetico, ho la possibilità di un'ulteriore scomposizione che però va condotta su altri tipi di rilevazione. A me basta concludere che il registro come tale non mi dà più di tanto, il registro come tale mi consente soltanto di individuare una categoria che io chiamo altri, borghesi, insomma, non nobili, non ecclesiastici. Sulla utilità delle zone agrarie non ritorno, anche perché io ho l'impressione, chiedo scusa a Vaini soprattutto, ma a quelli che, anche Coppola, attenzione, perché queste cose hanno un valore, un significato diverso a seconda della scala. Cioè, un conto è applicarsi ad una scala, come dire, ridotta, che permette approfondimenti. Un conto è applicarsi a una scala più estesa, insomma, no? Cioè, voglio dire, se io ragiono su tutto un ambito territoriale così esteso, ho necessariamente compio degli errori, indubbiamente, e generalizzo in un modo invece che è evitato da chi studia, lui qui studia Roverettano è un fazzoletto, insomma, chiedo scusa rispetto a un fazzoletto, va tutti bucato, ma magnifico a fiori, ma è un fazzoletto, insomma. Quindi uno si applica a un fazzoletto, va giù fino in fondo, coglie tutto quello che vuole. Uno si applica a 11 milioni di pertiche, applicarsi a 11 milioni di pertiche, come dire, obbliga ad introdurre dei criteri che sono diversi se uno si applica a 500.000 pertiche o a 300.000. Proprio sono diversi, anche i risultati certamente vanno valutati con criteri diversi perché ci si è potuti applicare in altro modo. Poi, sulla diversità delle culture no, mi pare che siamo d'accordo. I problemi di Coppola. Beh, alcune cose sono chiaramente sue, insomma, no, chiaramente sue nel senso che sono problemi specifici. Per esempio, un dato mi sembra certo, qui c'è Vittorini che può dare la maggior conferma, la proprietà in Lombardia si presenta come ben definita, molto più definita che non nel caso suo, no? E quindi questo toglie tutti i dubbi invece che lei giustamente ha per un ambiente in cui il regime proprietario ha ancora tutta una serie di indeterminatezze, insomma, no? Rilevantissime, ancora metà 800. Quindi quello è un problema certamente grosso. È molto interessante quel che dice lei, ritornando al problema delle classi di ampiezza, una correlazione tra la classe di ampiezza e la redditività del terreno, insomma, no? Però questo mi pare che riporti al problema che ci ha visto così affrontato in modo acceso, bisognerebbe allora poter stabilire dei parametri per tutto lo Stato. Ecco, se io nego la possibilità di stabilire questo per tutto lo Stato, ma non solo comunità per comunità, cade molto della possibilità che dice lei di accompagnare i due dati per avere poi una possibilità di definizione. Io poi ho scritto una cosa che non capisco più, ma questo è normale. La classe, sì, ecco, è giusto che dice la classe di ampiezza è cosa diversa a secondo della zona a cui si apre, voglio dire il medio in pianura è diverso dal medio in montagna, insomma, per il diverso rendimento rispetto, no, alle esigenze di chi ci viveva sopra. Le culture miste, nel nostro caso non esiste il problema. E tra le tante imprecisioni o fantasie, come dice Cova, del misuratore, dello stimatore, non gli hanno concesso questa, cioè voglio dire che scatta veramente qui è applicato con rigore il criterio della particella geometrica, cioè la particella geometrica di cultura è stimata in quanto tale. Quindi se un terreno presenta due culture è stimato come due particelle, insomma, a meno che sia un arativo arborato. Ma allora non è arativo e arborato, vuol dire che sono due culture, una compenetrata nell'altra. Allora questo gioca sul valore, perché ha un diverso tipo di sfruttamento. E così. Non esiste, credo di poter escludere, che non c'è mai un caso di e, cioè di congiunto sfruttamento diverso però, ma congiunto sfruttamento della terra. C'è invece quel grosso problema degli aggettivi, da dosare, insomma, no? Se far prevalere l'aggettivo, far prevalere il sostantivo, insomma. Noi non abbiamo fatto prevalere il sostantivo tutte le volte che indicava una pura posizione del terreno, per esempio, guardando invece a cosa ci stava sopra il terreno, no? All'uso del terreno, all'impiego del terreno, perché l'occhio era sempre rivolto all'uso agrario, quindi alla valutazione dal punto di vista agrario. Dunque, Boioli, io allora, ho capito una sola domanda. Molto semplice. Dicevo, no, siccome per stabilire le zone agrarie si è utilizzato il catasto successivo, sì. No, di conseguenza capita che alcune comunità che erano presenti nel primo catasto non sono presenti nel secondo. Come si sarebbe ha chiesto anche di Maddalena. Più esteso però, sì. Sì, ma sì. Il problema si presenta ancora. Anche lì abbiamo cercato di vedere, insomma, esatto, come se erano state accorpate, se erano state divise. Ah, quindi avete fatto un'analisi. E beh, per forza, perché se no non ci si ritrova, cioè ci sono comunità che non figurano più, quelle sono pareti, insomma, bisogna vedere a quale territorio appartenevano, diciamo, no? Sì, ecco, quindi a lei ho risposto sostanzialmente. Io credo che quella persona che non ha detto come si chiama, non so se è andata via, che poneva. E quindi è partito, c'è. Ma ha riferito. Benissimo, benissimo. No, secondo me ha posto un problema, tu hai ragione, io approvo al 100%, cioè la non o la difficile comparabilità in senso verticale, insomma. Ho l'impressione, perché lui fuori mi ha chiesto questa cosa, che avesse in mente la comparabilità orizzontale, diciamo, per esempio. Lui dice, siccome nella prima metà del Settecento ci sono tutti questi catasti, io ho capito così la sua domanda, se poi ho capito male io tanti saluti, e se c'è un qualche cosa che concorre alla formazione della scienza di misurazione, di stima catastale, insomma, che permetta di dire che tra il catasto piemontese, il catasto sardo, che so, il catasto lombardo, il catasto mantovano, il catasto veneto, ci sia in qualche modo una possibilità di confronto. Lui mi chiese questo fuori, se mai domani gli facciamo ripetere la domanda. Vale per il tempo quello che ha detto De Maddalena. Anch'io ho delle perplessità molto forti per cui non stabilirei. Ecco, per esempio, giusto quello che tu dicevi, nel catasto di Vigevano, quello che tu dici, l'aratorio arborato, per cui non c'è dubbio rispetto a quello all'acquisito che poneva Gallo, là sì c'è scritto. Ed era la stessa cosa sicuramente. Aratorio e arborato. C'è un E di più. Allora cosa facciamo? Sono uguali o non sono uguali? È questo che nasce il grosso dubbio. Li accostiamo. O no. Però non li puoi dividere perché non sai la stessa cosa. E non li puoi dividere. E allora è quello che è importante fare in non puoi che creare una, secondo me non c'è una cosa, creare una categoria apposta. Ecco, allora cosa dico? Smembrare per ricostruire. Tu sei di fronte a una cosa che non è definibile. Però parti da questo presupposto. Che se lo stimatore, o era stupido come può anche succedere, ma molto più probabilmente ha agito sulla base di un criterio che faceva parte, che lo stimatore applica gli stessi criteri che applica quando gli chiedono di valutare un terreno per una compravendita, no? Chi può escludere che usassero la categoria medica. E quindi allora rispettiamola. In questo caso qui creiamo la categoria del aratorio e ma certo, come si fa a confrontare per esempio quello studio di cipolla sulla distribuzione? No, tu non puoi. Non lo puoi. Non puoi. Questo lo puoi. Questo lo puoi. D'accordo. L'Italia non si può. D'accordo. Chiedo scusa, io devo finire, posso finire o non lo so, siamo... Io chiedo scusa, ma non più di allietare la cosa di così non riesco, insomma, no, no. Mozzarella, la risposta ai 45 quesiti costituiscono un materiale molto interessante, ma direi per la datazione e anche per la materia si pongono fuori da questo... io non ricordo più, io ne ho fatto un piccolo uso per la Brianza, perché ho trovato... Moioli credo che abbia avuto... per certe voci, insomma. Nessuno ne ha mai fatto un uso... Io ho provato a schedare un po' io, ho la provincia pavese dal punto di vista delle forme di governo delle comunità. Allora lì vengono fuori le cose più interessanti. Cioè, sono solo questi non ha utilizzato. Non lo so, io prodotti finiti non ne ho visti poco. Cioè, io confermo che è un materiale interessante per sempre per lo stesso criterio, perché si tratta di quesiti posti a tutte le comunità nello stesso tempo. Quindi sotto questo profilo, con quel grado di attendibilità che hanno, però danno in piano tutta la situazione. Sono del 47-48. Sì, sì. Sono già dalla giunta di Pompeonelli. Ecco, a lei ho già risposto, insomma, nel senso che sono ben consapevole che poteva venire fuori un cumulo di altre cose. Ecco, sì, ecco, no, De Maddalena poi ha replicato ancora per precisare questa cosa della non confrontabilità. Da questo punto di vista qui è molto interessante ricostruire il lavoro della giunta. A me è sembrato a suo tempo, allora ero molto giovane, molto inesperto, ma a me è sembrato una cosa interessante, perché si vede una cosa, per esempio, la giunta, come viene insediata, il primo atto che compie è quello di andare a recuperare tutti gli atti del catasto di Carlo V, le regole del pergamino, tutte queste cose, cioè tutte quelle regole che erano servite per il catasto precedente, a quello che Coppola poi ha utilizzato, ma le prende in mano per discuterle e per migliorarle, insomma, no? Cioè tiene conto di... Mentre invece per la giunta di De Niro la svolta radicale rispetto, che innova rispetto a tutto, è l'uso della foresta pretoriana, che rompe con il vecchio sistema della misurazione sul terreno, mentre invece è la misurazione mediante lo strumento, insomma, no? E la riproduzione in mano. Lui mi guarda così scettico perché dice che non è un'innovazione della giunta, è una vecchia controversia tra di noi e gli altri. Comunque, su grande scala è il catasto, questo qui, che applica quel criterio, che è un criterio importante, che metteva fine a ogni controversia sulla superficie. No? Ecco, Chitolini ha sollevato un problema che preoccupa perché anche noi abbiamo avuto, con qualche cosa già bozzata, insomma, no? qualche sondaggio, lei mi diceva per la Valcuvia, ecco, io adesso non ricordo più, voi non ricordate che zona era questa? Comunque era una zona di montagna, e dava una cosa impressionante, cioè il numero delle partite era aumentato, ma non, come dire, per un presumibile, naturale, fisiologico, no? Ulteriore di dividersi della proprietà, ma come una cosa che... Io credo però, non ho la spiegazione di questo, prima. Vorrei vederlo prima, cioè approfondire le indagini per la pianura, per le altre zone. Comunque mi pare una cosa certa, è molto difficile che questo metta in discussione i dati del 703. Posso dare una piccolissima risposta che è di tipo familiare. Io sono nato in Bartolomeo e quindi ecco perché lo dicevo. Nel mio archivio familiare, intorno a quell'anno, la proprietà viene intestata a tutti i miei antenati, fratelli tra di loro, rimanendo la stessa. E questo proprio per evitare che diminuiva la tassazione fiscale. E l'ipotesi che anche questa aveva del mio. Cioè, questo lo posso provare a titolo personale. Sono a casa io la cosa. Quant'era per la comproprietà? Viene distribuita in testa a tutti i fratelli, che pare identico, non cambia nulla. Soltanto che vanno dal notaio e intestano. Sciolgono le comproprietà. Sciolgono la comproprietà. Cioè, Ora, nell'irrigo la comproprietà conta poco. Facilia forse anche lui una risposta. Se non sbaglio, la Giunta del Ministro, la prima fase delle proprietà comuni le tiene tutte sotto un unico titolo di proprietà comune. Poi si accorgono che sta succedendo l'ira di Dio e sono costretti a rifare tutto e a risuddividere. Perché inizialmente venivano attribuite solo non sono poche le proprietà comuni. No, anche nella montagna, ecco, difatti credo che le cose siano 6% dei titolari. Ecco, però lui risulta un 6% di comproprietà. Se questa comproprietà tra 730 e 760 è stato luogo di soggetti, la zona di Gaviante, Ispra eccetera è già sotto la montagna, però la zona di Gaviante è già è collina. Deve essere no, collina, non è più montagna. È sua. Lago di Varese, insomma, giusto il Lago di Varese, non è più montagna. No, non è montagna, tutto funzionale. È collina. Ma lì è tutto funzionale. Però diciamo alta collina e montagna, insomma. È media montagna, sì. Comunque, quello che Titolin, chiedo scusa, ha sollevato è un grosso problema. Questo è un botto. È un grosso problema, che solo una verifica attenta su tutto l'universo permette di arrivare a qualche conclusione, insomma. Per il momento io confermo quello che lei ha, confermo nel senso che ho visto, insomma, anch'io questa cosa, ecco, che mi ha spaventato, insomma, ma ha fatto nascere molti dubbi, ecco. Posso dire un'altra cosa? Scusa, prego. Questo è il discorso di storia economica più generale, però posso dire un'altra cosa. Nella massa di atti notarili, per esempio, c'è questo studiando in funzione del tasso di interesse, ma la massa di migliaia di atti notarili tra 720 e 760 che faccio, trovo, siccome io tiro fuori il tasso di interesse anche dalle vendite dei terreni, vi dicendo, con pagamento dilazionato, trovo che a questo periodo si moltiplicano, tra 40 e 60 si moltiplicano le vendite, e penso proprio che non siano vendite effettive, cioè non soltanto frazionamento di altre situazioni. Ora, il grosso problema è perché questo avviene, diciamo solo per capire, cioè direi sì, è fisiologico, forse è patologico, non so, comunque c'è uno stimolo alla vendita eccezionale, alla ricomposizione, diciamo, alla ricomposizione su altre basi della proprietà. Ecco, vedere i dati che ho io del No, anzi, importante. E voglio dire, a Capra e a Bracco in pratica è già stata data una risposta nel giro del discorso, insomma. Vabbè, sulla controversia se il catasto contabile lo o no, insomma, è schiarito anche questo. Per il livello, Coppola ha già avuto una spiegazione, e così per gli altri, no? Per la composizione sociale, che bisogna scendere all'indagine su Jung, insomma, ecco, questo è, secondo me, è il dato sicuro. Bisogna andare oltre il numero e ampliare la ricerca. Ecco. Posso chiedere un'ultima cosa a questo a Bianchi? Voi sì. Avete depositato tutto presso il... Depositeremo. Ecco, questa nastri, diciamo... Non so parlare, perché non capisco niente. Io sono ancora di una generazione precedente la tua, quindi ti immagini tu, io non capisco veramente niente. Sì, ma leggiamo bene. Sono utilizzabili anche su, diciamo, le nuove macchine che escono? Senza dubbio, accordo. È già previsto che si possa utilizzare, perché per esempio il discorso che facevo, ecco, sulla nostra sull'utilizzazione di petrolio. C'è un limite, però, che i nastri sono caricati questi dati e non altri. Ma tutto è utilizzabile anche in futuro, non è che poi dopo. No. Non è solo voglio dire come il dico male di Edison. Il dottor Paganini mi sta guardando con il punto è questo, Maraino. Che su quei nastri sono caricati quei dati che noi abbiamo ritenuto di caricare. Messi in macchina, era il grande problema che avevano. Messi in macchina danno i dati che si chiedono sulla base dei programmi. Ma sempre messi in macchina. Certamente. No, voglio dire, non è già il caso adesso di metterli, per esempio, su altre. Ho chiesto questo espressamente. Di solito tra i vecchi sistemi e i nuovi sistemi c'è sempre un po' di aggeggio, sì, sofisticazione maggiore, sono dei bypass, semplice, come bypass. Ma quanto si traduce il primo caricamento? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto io visto adesso 76, dopo la morte di Romani nel 76 è linguaggio forte. Questo è anche da consultare. noi a questa cosa qui abbiamo tirato giù la saracinesca per impedire confusioni, insomma. Il consulente, come dire, che ha fatto tutto il lavoro da questa parte qui, ci ha garantito, come dire, il... ecco, cosa vogliamo fare alle 6:30? Diamo un po' d'aria. Ma poi diamo a cena, il problema è di sapere se prendiamo aria per ritornare al lavoro. Cosa vogliamo fare? Beh, certo, sì, per quanto c'è, io non lo faccio. Un attimo di pausa. Vogliamo far pausa e poi riprendiamo la discussione? Dove si fa? Non lo so, questo dipende. La cena alle 20:15 all'hotel a Roma. Allora, 10 minuti, poi facciamo ancora una mezz'oretta e poi andiamo a cena. Sì, la benissima. No, io mi adeguo, come dicevo, metà. E vogliamo riprendere un altro giro di osservazioni? Sempre naturalmente che ci sia, insomma. Io non credo, ho dimenticato qualcuno, perché succede, insomma, non so, qualcuno non si ritiene soddisfatto della risposta, per cui possiamo ritornare sui problemi. Possiamo parlare. Il professor Cova, ammettiamo che... No, mi sembra noioso riprendere il tema della distribuzione delle classi di ampiezza. Io intanto comincerei a fare una distinzione su questa questione. Il punto di vista dal quale ci poniamo per definire le dimensioni della proprietà fondiaria, perché se per la dimensione della proprietà fondiaria intendiamo fare uno studio, metterci nella prospettiva di determinazione del grado di concentrazione della ricchezza, allora io in un certo ambito territoriale come lo Stato di Milano posso fare l'accorpamento sulla testa dei singoli proprietari indipendentemente dal luogo, una certa famiglia, un certo individuo possiede una certa quantità di terra. E questo è un discorso. L'altro discorso è se la distribuzione della proprietà fondiaria e la sua concentrazione sono da mettere in relazione alle dimensioni dell'azienda agraria. E allora lì probabilmente non mi basta più fare questo grado di accorpamento sulla testa dei singoli, ma dovrò adottare probabilmente due criteri di valutazione, due classificazioni, uno sulla testa dei singoli e uno cercando di definire un'unità territoriale più ridotta, che potrebbe essere un luogo dove questa proprietà sia contigua, sia vicina, che possa determinare cioè un certo modo di gestire questa stessa proprietà. Queste due elaborazioni dei dati disponibili sul catasto mi pare sono impediti fondamentalmente dal fatto che ci sono delle omonimie innanzitutto, e poi c'è la impossibilità, perlomeno pratica, di andare a verificare se le singole particelle di terra poste per esempio in comuni diversi, e direi anche nello stesso comune per certi versi, siano veramente con che grado di distribuzione, siano contigue, non contigue, lontane. La generazione non è contigua. Io ho provato il pianeta napoleonico, ho fatto un tentativo di questo genere, ho dovuto piantare lì. Ma lì sono divisi per regioni, cosa che non è solo questo per tanto. Nel catasto napoleonico sono divisi per regioni e quando io vado a vedere il contratto di vendita e il contratto di vendita mi fa riferimento alla mappa catastale, al catasto, e mi dice nel tal luogo sono vendute queste particelle di terra e me le enumera, io trovo delle differenziazioni di numero che non mi dicono niente, perché metti che sia circolare la cosa, se io ho due terre contigue così e il senso della numerazione è un altro, ho la particella numero 137 e la 454 e non so se la 137 è vicina alla 454 o no. Solo la mappa, solo l'esame. Ed è un'impresa, avete in mente che tipo, è una roba, solo la mappa dice questa cosa. Impossibile a farsi un tipo di elaborazione. Perché se questa fosse possibile, o anche la prima soltanto, cioè le omonimie sciolte, io ho, secondo me, l'unico modo per determinare se la proprietà è piccola, media o grande, non può essere un criterio oggettivo in assoluto, cioè da 0 a 2 ettari. Io faccio un calcolo, come insegnano gli statistici, di frequenza. Io ho l'universo che si distribuisce in un certo modo, calcolo con gli strumenti dell'analisi statistica i valori medi e calcolo via via, come dire, le distanze dalla media e vado a determinare qual è la distribuzione della proprietà e dico che è normale quella distribuzione che raggiunge il massimo di frequenza per quel territorio. Questo è l'unico criterio a mio modo di vedere, razionale per valutare se è piccolo, medio o grande. E farò le mie analisi a seconda delle varie zone con le varie articolazioni. Non c'è, mi sembra. Anch'io sono, uso i dati che ho a disposizione, uso le classificazioni che ho a disposizione, ma secondo me con un elemento di questo tipo, col catasto a disposizione e sciogliendo la riserva delle omonimie, veramente io potrei costruire razionalmente qual è la distribuzione della proprietà fondiaria per classi di ampiezza sulla base di quell'universo lì, in quel momento storico e in quell'ambiente. E non ce ne sono, a mio modo di vedere, altri sistemi, insomma, per sciogliere questo quesito. Il secondo punto, è vero che io ho classi di ampiezza che hanno valori capitali, quindi sostanzialmente redditività dei fondi con tutte le riserve che sappiamo sulle stime, eccetera. Ma mi va molto bene, ma è un criterio che mi sembra molto importante, quello del dire, bene, le terre fino a 2 ettari nell'area di pianura valgono 7 scudi per pertica, le terre della zona di collina valgono 2 scudi per pertica. Questo è già, non vorrei nascondere questa realtà, perché vorrei dire proprio un elemento di conoscenza delle differenze di struttura fra le varie zone agricole del paese. Quindi non ricercherei un'uniformità, ma al contrario metterei in evidenza queste differenziazioni perché secondo me sono un'importante informazione per delineare le caratteristiche di un sistema agricolo, in tutte le sue varie articolazioni. Sì, accetto questi rilievi. Mi pongo un problema. Giustamente io ritengo che, come giustamente dici, io ritengo che bisogna parlare catasto il più possibile. Cioè bisogna che da questi dati a un certo punto vengano fuori il massimo delle informazioni. Ora, probabilmente nella scelta delle classi di ampiezza, a seconda che noi la variamo, il catasto va in maniera diversa, voglio dire, dà delle indicazioni diverse. Quello che io so, almeno non so se è il criterio lo stesso, mi pare che siano le stesse classi di ampiezza, se non sbaglio, del lavoro dei Romani. E di Pugliese, quindi il criterio è un criterio di omogeneità, per me va benissimo, voglio dire, c'è un discorso di riferimento a un lavoro già fatto, io tra l'altro ho usato le stesse classi di ampiezza quando ho parlato del catasto di Carlo V, che non so se sono la stessa cosa, insomma, comunque in ogni caso, il punto di riferimento era che bisognava stare lì a dire certe cose anche per togliere di mezzo certi equivoci che magari il Pugliese aveva tirato fuori. E uno usa le stesse classi da quel punto di vista. Sarebbe difficile riuscire a capire, per esempio, dal lavoro del Pugliese come ha fatto a determinare perché un quarto di ettaro e non un ottavo, oppure perché 2 ettari e non 5, per dire, no? Mi è molto difficile pensare. Siamo perfettamente d'accordo che è un discorso relativo alla distribuzione sociale della proprietà, vuol dire è comunitario, penso che lì dentro. Proprio per questo, se il problema diventa modesto per le classi di ampiezza oltre, che so io, 50 o 100 ettari, per la piccola proprietà contadina, per le classi di ampiezza intorno a un quarto, 2, 5, 10 per esempio, questo assume invece un significato molto più radicato. Perché? Perché intanto statisticamente puoi provare che la piccola proprietà contadina a questo punto non è disseminata così pezzettino di qua, probabilmente la piccola proprietà contadina si concentra gli elementi già fatti su quegli accostamenti, sulla media proprietà, già indicano una cosa di questo genere. Quindi, in effetti, il piccolo contadino possedeva quel pezzo di terra che solo quello, in un certo senso. Quindi aveva, nell'ambito della comunità, il suo luogo e la sua, diciamo, capacità di sviluppare l'agricoltura sul momento. E allora a questo punto mi chiedo se è un criterio che faccia parlare di più, che non soltanto il riferimento a Pugliese, voglio dire, se è possibile. Mi rendo conto che a questo punto subentra un problema di complicazione, non di semplificazione. Se ho capito bene, creando delle classi ancora più piccole. No, oppure cercando di valutare l'ambito della... così. A me veramente mente una cosa del genere, insomma. Il tentativo di ricostruire il significato sociale della classe d'ampiezza, che è molto, ovviamente, molto difficile. Però è un discorso che apre, come dire, tutta una serie di sollecitazioni a livello anche della struttura sociale della comunità. Non c'entra niente con la storia dell'agricoltura? Probabilmente no. O meglio, c'entra sì, perché a un certo punto il criterio di un tipo di organizzazione della produzione è più evidente. Se noi mettiamo, non so, oltre tra 2 e 4 ettari di terreno, il limite minimo di compatibilità di una struttura familiare, bene, di quella società di contesto, di quell'ambiente, eccetera, ecco, allora le differenziazioni non le faccio più, però ecco, l'elasticità è notevole. Ora, il criterio della famiglia era una risposta che volevo anche per me, questo è il discorso, cioè io sono d'accordo, magari ci sono dei problemi di questo genere. La risposta che io cerco è quando a un certo punto vado a analizzare soprattutto in montagna, e già abbiamo le zone in montagna, o soprattutto in certe zone dove la piccola proprietà contadina è molto sviluppata, come faccio a rilevarla meglio, insomma? Differenzio ancora di più, differenzio meno, eccetera, è una... Questo è il punto, tu non puoi farlo a priori. Razionalmente devi farlo a posteriori, devi prendere quel universo lì, no, andarlo sì, a sì, e collocarlo. Ho sentito qualche difficoltà a questo discorso, mi scusi, Covaccecovi. Ho spremuto il pedigio, ma non sono riuscito a pensare nel fondo il pensiero di Gavolo. Forse lui vuol dire questo. Nella vostra classificazione, adesso non ho presente più, non più davanti. Un quarto di ettaro come più. Da un quarto. Forse diceva, non era forse il caso di partire ancora da... Sì, infatti, creare delle classificazioni più piccole. Ecco, solamente questo lui forse voleva dire, in modo che domani studiando si possa operare tutte quelle ricerche a cui all'uso, insomma. Sì. Ecco, so, questo forse vi deve dire, il caso di partire da, anziché da un quarto, da un decimo. Però come sostenere la domanda completamente diversa, praticamente un altro. Un quarto di ettaro, che cosa rappresenta dal punto di vista agricolo e sociale? Cose diverse, c'è due cose diverse in montagna, questo è evidente. Cosa rappresenta un quarto di ettaro il limite dello sfruttamento così... L'autoconsumo è sufficiente per l'autoconsumo? Sufficiente, eccetera. No, perché... oppure significa un limite relativo a uno sfruttamento non razionale del terreno perché è al di sotto di... C'è un'altra cosa, dipende se parliamo del proprietario coltivatore del fondo, perché se tu ti poni il problema del significato sociale di questo fenomeno, tu il discorso della proprietà non lo risolvi affatto perché riguarda le condizioni sociali, perché il pigionante coltiva due pertiche di proprietà di un tizio e coltiva tre pertiche di proprietà di un altro, quattro pertiche di proprietà di un terzo. Perché non lo risolvi con questo è il caso classico di una domanda che non può essere rivolta a questi dati qui. Cioè non in sé, solo in sé, con l'aggiunta di altre cose sì, ma non, in sé non si arriva a una risposta a queste cose. Io non credo che si possa, di fatto no, non doveva neanche. Rispettiamo anche la natura della forma. Ma certo, è proprietà, non azienda. Questo è il problema. Cioè, quello voleva andare a trovare un punto di riferimento per ripartire l'imposta. Certo, esatto. Poi non dimenticate tutto quello che c'è alle spalle, insomma. Ci sono due secoli in cui tutto questo è andato smarrito, insomma. È andato a smarrire, siamo noi che ragioniamo con mentalità, parliamo di rendita fondiaria, parliamo di... Ma questo non l'avevano in testa, perché anche queste cose... Loro avevano bisogno di un parametro per dire, vabbè, quello lì, come dire, deve pagare di più, quello deve pagare di meno. Fino adesso siamo andati a spanne, adesso troviamo un modo per rendere la cosa un po' più equa. Come facciamo? Misuriamo la rendita netta per comunità. E come lo facciamo? Lo facciamo accumulando una serie di dati che portano un valore, il quale valore porta un parametro, lo sfruttato. Questo è quello che dà la fonte come tale, quella lì dei registri. Perché se uno va a vedere tutto, io questo lo ripeto, ma ci sono qui persone che sento, Chitolini ha fatto una ottima cosa, è andato a prendere le minute, ecco, questo è un utilizzo di un materiale preparatorio, così come ci sono altre, c'è un altro materiale interessantissimo sui rapporti contrattuali. Perché? Perché interessava a colui che andava a compilare la stima nella comunità, convocava gli anziani e diceva: qual è il contratto dominante nella comunità? Risposta: Però è così, a domanda, scusami Paolo, poi ti do la parola. Domanda e risposta, si rivolge, dice, domina e dicono, non so per esempio, è un contratto di questo, non lo chiamano mai con questo termine, dicono, no? Non so per esempio, è l'affitto a danaro, tanto per pertica, perché quello deve raccogliere gli elementi che gli servono per formulare la base dell'imponibile, insomma, cioè la stima su cui calcolare l'imponibile. Questo è quello che la fonte, ripeto, può dare, insomma. È una finalizzazione fiscale, non è una finalizzazione economica. Questa è la cosa veramente importante. Allora uno la considera veramente il punto di partenza per una serie di altre rilevazioni. Professor Brodi, scusa. Io sono superato da quello che ha risposto Foma, però dalla domanda di Carlo mi rimaneva una curiosità. Posto appunto la divisione tra la ditta e l'unità produttiva, che sono due cose diverse, insomma, cioè per ditta appunto la proprietà, diciamo. Nell'insieme, sì. E per unità produttiva invece è quella. Ecco, rimane il problema di capire se dal catasto, e questo capisco anche l'esigenza di Gauss, se non ti guardo male, perché le zone montane sono particolarmente interessanti da questo punto di vista, della fascia in cui queste due cose coincidono. Allora, per questa fascia noi siamo in grado di arrivare a degli approfondimenti un po' maggiori. Cioè la ditta coincide con l'azienda. Con la partita, bisognerebbe dire meglio. Prima la partita coincide con l'azienda. La ditta coincide con l'azienda. E la ditta coincide con l'azienda. C'è una fascia in cui si può fare un discorso, questa è la mia domanda da profano assoluto, insomma. Io non la c'è una fascia in cui questo discorso si può fare, un po' se sì. Beh, sentite, qui ricordate tutti, Sapieri ha inventato quel tipo di azienda che è formata, tipica meridionale, no? In cui si possiede per proprietà, poi si coltiva su proprietà, si coltiva su affitto, si coltiva su mezzadria e si coltiva su enfiteusi. Tutto questo dà luogo ad un'azienda, lui la chiama così, certo. Anche se è costruita su quattro pezzi di terreno distanti fra di loro, non contigui, e posseduti e goduti, chiedo scusa, a titolo completamente diverso. Allora Paolo, tenete a questo, come dice lui, se uno possiede un pezzo e poi è suo, come proprietà sua, no? Intestata a lui, e poi ne ha un altro di puro godimento, per esempio, quello lì, secondo gli economisti agrari, forma l'azienda, tutte e due le cose, perché uno gli dà il fieno, l'altro gli dà il grano, e l'altro pezzo ancora gli dà la legna. Nell'azienda, se di azienda si può parlare, questo semmai è il dubbio, questo concorre a far sì che l'azienda stia in piedi, perché lui prende il legno del bosco e con il legno del bosco fa il recinto dalla parte dove c'è il prato. Nella parte del prato alimenta la bestia che porta il concime sulla parte di grano turco e di segale. È un'azienda questa, perché fa concorrere i fattori tutti per un prodotto unico, che vanno in testa, qui il reddito va in testa uno solo. Questa è azienda, però la base di questa azienda è un insieme di unità possedute, godute a titolo diverso, che per di più non sono per niente contigue. Il catasto non me le dà. Il catasto non me le dà. Questo è il catasto da tre proprietari diversi. Da tre proprietari diversi in questo caso qui. Uno, quello lì Luigi Brandina, quell'altro che gliel'ha dato in affitto e quell'altro che gliel'ha dato in enfiteusi. Oppure gliel'ha dato a livello. E allora io non ricostruisco con questo, ma d'altra parte, a costo di annoiare, che cosa interessava a chi ha fatto il catasto? Non gli interessava la rendita dell'azienda. Un'imposta reale. Esatto, gli interessava la rendita del pezzo di terra in quanto tale, non in quanto entrava in un'azienda. Perché l'ospedale maggiore di Milano, che costruisce delle grandi aziende, non è tassato sulla base delle aziende che rendono. Reddito aziendale. Sul reddito aziendale, ma è tassato sulla rendita agraria che è data dal pezzo. Detto più propriamente, la rendita domenicale. Allora, sfugge da questo completamente la possibilità. L'azienda tu la ricostruisci con un altro criterio, che tiene conto delle possibilità, che tiene conto del suo presupposto, come dire, come si potrebbe chiamare, di proprietà, no? Tiene conto, giuridico, ma deve tener conto di un cumulo di altre cose, cioè di che cosa entra in questa azienda, che cosa costituisce l'unità aziendale. Paolo, è la differenza sostanziale, il nostro catasto è la differenza in modo assoluto dai files inglesi. I files inglesi loro non riescono a capire cos'è il nostro catasto, perché i files inglesi è la riunione, è una storia di catasto di quella, ma fatta sui farmers, non fatta sui proprietari, cioè sul gestore dell'azienda agraria. non sul proprietario dei terreni che vengono poi gestiti da uno, il quale può, può gestire terreni di proprietari diversi. Quella è la, diciamo, la lista dei, dei farmers, e vengono colpiti i farmers, perché là il prodotto è sulla... Secondo me questa è una cosa giusta, che andrebbe fatta, sarebbe colpire il reddito dell'azienda che lo produce, certo, non, non colpire i beni singolarmente. Mentre invece noi siamo andati sui farmer, là vengono colpiti dei farmers. Invece noi colpiamo sui cespiti, tu colpisci il cespite derivante da questa cosa, poi separatamente colpisci sull'altra cosa, dimenticando che tutto questo concorre a creare, come dire, la tua capacità complessiva. Tanto vero che da parte del Settecento i farmer erano una rocca del fisco, per poi recuperare a livello di tassa reale sul patrimonio, sulla proprietà, erano loro, nei confronti dei vari proprietari di cui loro erano i gerenti dei poteri, della possessione. Quello sì, questo comunque, comunque nell'archivio di Stato di Milano c'è il carteggio, il caudice sarebbe Pastrini, dice, ma è possibile che non riusciate a darmi l'idea dell'accorpamento di proprietà? Certo. Perché quello che lui vorrebbe, fa dei tentativi, ci sono dei registri, no? Renato Carli si era messo a fare. Si era messo, ha tentato, per alcune famiglie. Poi la piantano lì perché il catasto è impostato in un modo che richiederebbe tutta una successiva operazione. Ma non aveva parlato di compiere ieri. No, no, guarda che loro hanno, sì, come ipotesi, come ipotesi, sì, ma la gente, i proprietari, era una grande battaglia vinta, certo, questa, certo. Questa è una grande battaglia vinta, se io sono tassato in 5 comunità diverse, ma non si tiene conto che dalle 5 comunità mi dà luogo di una ricchezza unica, io quindi sono tassato come se fossi in 5 posti diversi. È vero che l'imposta è progressiva, non è progressiva. Non è progressiva. Se fosse progressiva si porrebbe il problema veramente vero. Non capisco neanche il grande interesse per loro di fare una battaglia di quel genere lì. Perché volevano colpire i grandi, a un certo momento volevano probabilmente arrivare. Scusate, comunque, grandi contribuenti dello Stato sono reale. Certo, è un'imposta reale. Non hanno fatto nessun modo la posizione sociale del proprietario. Perfetto. Quindi tutti questi discorsi della ripartizione, io non li ho mai visti. No, no, non ci sono, non ci sono. L'imposta può essere universale e reale. L'imposta fondiaria è reale, i catasti non servono certo per fare una redistribuzione del reddito, è inutile che ci accontiamo. Sì, no, non si può, non si può, logicamente, non si può utilizzare per questi tipi. Io questo non ho dubbio, non ho dubbio. Prego. Io a proposito teniamo dopo l'orologio solo per dell'accorpamento, no? Nel Mantovano è stato fatto perché serviva per l'elezione della congregazione dell'amministrazione provinciale, gli stimati erano convocati su base di e loro hanno accorpato i maggiori proprietari, c'è una lista di 20-30 maggiori proprietari, sì, sul livello, no, su tutti i livelli provinciali, appunto, perché servivano per quella che era. Da questo punto di vista qui nel Pugliese c'è la citazione di un elenco che secondo lui esiste a Vienna, dà anche il numero della cartella, ma io non l'ho trovato nella collettanea lombarda, insomma, non c'è. Lui dà un elenco di massimi proprietari distribuiti per pieve, quindi non ancora per tutto lo Stato, ma distribuiti no, per pieve. Nel Mantovano c'è un elenco e appunto perché si deve procedere all'elezione dei consigli comunali. Beh, certo, in questo caso fa scattare l'importanza di questa questione. Allora c'è un elenco che poi... io sono preoccupato solo di non... Cosa vogliamo fare? Chiudiamo a questo punto. Professor Prodi ricordava l'importanza, non è mattina di trovarsi qui per le 9 precise, perché in questo modo riusciamo, lavorando fino alla 1, tu dicevi Paolo, non mi pare, fino alla 1 forse riusciamo a cacciare dentro tutto, non lo so, cioè noi, d'altra parte con lo scrupolo di non riempire la testa di tanti dati, diremo alcune cose essenziali, poi magari nel dibattito invece andremo in profondità nelle direzioni che possono interessare, no? I presenti. Può continuare anche il pomeriggio, ma alcuni esitano. Eh beh, no, capisco, io non... Se si potesse esaurire la mattina sarebbe... Facciamo il possibile, allora, la prima cosa è cominciare alle 9, se già cominciamo alle 9:30 ci mangiamo... Scusa Paolo, questa roba qui, preziosissima, possiamo lasciarla qui? Sì, è il domenico, c'è la copia adesso. 12 anni per essere detto adesso. Da me, ma in caso di...